è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Di Marchionne, caro no. Parenzo, mi hanno caricato a pallettoni. Mi hanno caricato moltissimo le parole di Marchionne. Cioè, questa canzone degli 883 sarebbe per questo signor Marchionne, no? Bravo, hai capito tutto, sì. Che vergogna. Perché qual è il problema? Così. Qual è il problema? Se scusa. Ti piace così, se qual ti è? Ecciti, se ti ecciti perché il manager italo-canadese pagante le tasse in Svizzera. E allora? Parla allora? Di folklore, di sentenze della magistratura italiana. Allora? Se ti piace così, e se ti piace così, che ti devo fare? Ti piace così? Sentenza di Pomigliano, folklore locale. Non c'è nessuno che vuole venire a investire in Italia. Ci sono regole che esistono solo in un paese. L'Italia è un paese complesso, nelle questioni industriali come nessun altro paese. Poi ha detto però che rispetterà la legge. Allora che vuoi? E ti credo. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma ti credo. Cioè, ma nessun manager si era mai permesso di parlare di folklore locale. Ha ragione, ha ragione che lui. Ha dato un paese. Paghi le tasse in Italia. Ma che c'entra? Marchionne, paga le tasse in Italia. Ma che c'entra? Non capisci nulla. E rispetta la legge, rispetta questo paese. Rispetta questo paese che stasera farà uno spread così alla Germania della Merkel. Ma cosa c'entra adesso la partita di stasera con Marchionne? Come al solito mischi due cose che non c'entrano nulla. L'orgoglio nazionale. Ma che c'entra l'orgoglio nazionale? Ma stai zitto. Questo signore calpesta le leggi, se mai sbagliate. A te piace, a te piace. C'è come al solito un paese in cui ci sono dei giudici che impongono a un'azienda quante persone deve assumere. Vabbè, folclore. A te ti piace così questo paese? Se ti piace così va bene il lo stesso. Folclore, la parola folclore. Sentiamo folclore. Qualche altra marchionnata, qualche altra marchionnata. Quella di oggi ancora non ce l'abbiamo in audio, magari arriverà. Tirannia della minoranza verso la maggioranza, cioè il fatto che uno su 10 dipendenti mi va a condizionare come funziona un'azienda. No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza. Beh, miele per le mie, come si dice? Io pensavo che tu ti eccitassi per altro, mentre ti ecciti perché un signore calpesta le regole di un paese. Mamma mia, come mi hai già stancato alle 18:36, sono già stanco. Dovresti arrabbiarti invece. E anche parecchio, stai zitto. Che paga le tasse in Svizzera. Sì, ma che me ne frega, basta che le paghi. Il mondo è globalizzato, si possono pagare le tasse ovunque. Un manager globale, Marchionne, paga le tasse dove le deve pagare, basta che le paghi. Intanto dovresti arrabbiarti per un'altra cosa, per quello che accade in Sicilia, caro Parenzo, quello che accade in Sicilia. Poi dice che il sud non è fallito e poi dice che la Merkel ha torto quando ha ancora gli occhi puntati su di noi. C'è un signore che è un pensionato d'oro, che pretende 1.400 euro al giorno. 1.400 euro al giorno, un tale che si chiama Crosta. 460.000 euro l'ultimo stipendio. Come è andato in Crosta? Crosta, sì, Felice Omen, Crosta. L'ultimo stipendio che ha preso come capo dell'agenzia Acqua e Rifiuti era di 460.000 euro. E poi, grazie a una leggina, fino a poco tempo fa prendeva 41.000 euro al mese di pensione. Poi a un certo punto c'è stata una modifica e ne prende 227.000 euro l'anno. Non si accontenta, ha fatto ricorso e aspetta adesso il 10 luglio che magari qualche tribunale gli dia ragione. Capito? 1.400 euro al giorno di pensione. Ci sono altri dirigenti della regione siciliana nella stessa condizione. Arrabbiati per questo, non per Marchionne. Ma è ovvio, evidente che mi arrabbio anche per questo. Sono due casi. Ma quali casi? Quali casi? Per cui vale la pena di indignarsi. Sono ancora due indignati. Casi per cui vale la pena indignarsi. Intanto torna Volpe Pasini, intervistato dal TG3. Comunque ti dico solo una cosa. Fai silenzio un attimo, fammi fare la trasmissione. Un attimo, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Tu devi dire tutto adesso? Devi dire tutto adesso alle 18:37? No. Tante tante cose da dire oggi. E allora stai calmo. Volpe Pasini intervistato dal TG3, il guru di Berlusconi. Sentiamo. Il PDL così com'è non può andare avanti. O cambia tutto e cambiano anche i suoi dirigenti e allora fa un grande passo avanti, oppure gli attuali dirigenti tengono il PDL e Berlusconi fa qualcosa di nuovo a fianco al PDL. Hai accettato il mio invito ad uscire. Hai capito, Volpe Pasini? Sì, sì. Le grandi strategie del PDL, per carità, benissimo. Sono Brunetta, proprio... siamo sfigati nel 2001 le Torri Gemelle, nel 2008 il crack americano. Sì, sì, ma se lo ricorda le Twin Towers, se le ricorda le Twin Towers, allora, certo, 2001, pochi mesi dopo che avevamo vinto le passate di due volte fa, questa volta vinciamo le elezioni e scoppia la crisi negli Stati Uniti dei subprime. Siamo un po' sfigati da questo punto stavo di vista. Per dirlo, guardi, l'ho detto io, un po' sfortunati, l'ho detto io. Non mi sento un cazzone da definizione di Ferrara, è sempre Brunetta. Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, ha scritto che Berlusconi e gli altri nel PDL che meditano di far cadere il governo Monti sono dei, chiedo venia per il mio francese, sono dei cazzoni. Lei si sente tirato in causa, chiamato in causa? No, assolutamente, non mi sento un cazzone. Io lotto, lavoro tutti i giorni. Lotta! Lotta come noi, come un leone. Brunetta non si sente un cazzone, benissimo. Alfano invece sente Berlusconi vicino. Tutti sanno che in realtà Berlusconi l'ha scaricato in pratica. Lui lo sente vicino. Questo impegno non so che frutti produrrà, però io ce la sto mettendo tutta e percepisco all'interno del mio partito un significativo consenso nei miei confronti, a cominciare dal consenso del presidente Berlusconi. Ce lo sente, sente Berlusconi vicino nonostante ma non solo lui, dicono. Non solo lui. Questo ad Agorà, questo ad Agorà. Però una delle voci del giorno è del questore Cicolani, uno di quelli che amministra i soldi al Senato, quello che aveva assunto Cammarata per conto di Schifani, almeno si dice, Cammarata, l'ex sindaco di Palermo, che rivendica in realtà che a Palermo non c'è mai stato nessun buco, giocando sulle cifre, ma non importa questo. Cicolani ci dice, senatore, le dimissioni di Cammarata, un atto di generosità, Parenzo, arrabbiati! Mamma mia! La sua dimissione è un atto di generosità nei confronti di chi ha voluto dargli fiducia. Questo è l'uomo Diego Cammarata. Cioè non voleva metterla in difficoltà. Nei confronti del quale non si può che esprimere apprezzamento umano. E poi la cosa più bella. Ma guarda. Il percorso che ha portato all'assunzione di Cammarata è un percorso... Sentite il termine che ha utilizzato questa mattina da Alessandro Milan. Sentitelo, vi prego, sentitelo. Ci saranno. Devono criticare me per queste scelte. Che c'entra? Che lui fa parte di un percorso endoprocedimentale, cosiddetto, no? Ma cosa interessa alla gente se io mi avvalgo di Tizio, di Caio per darmi delle carte che poi sono carte oggettive? Allora, un percorso endoprocedimentale e poi dice che vi vogliono prendere a pomodorate, caro Cicolani, è stato assunto perché amico di Schifani. Cicolani è stato assunto Cammarata perché è amico del presidente del Senato. Non c'è niente di male, ditelo. Non il percorso endoprocedimentale. Il percorso endoprocedimentale, divento pazzo, tagliatemelo. Allora, intanto Orlando ha annunciato, sindaco di Palermo, la zanzara è cominciata, 800 24 00 24. Il sindaco di Palermo Orlando ha annunciato le sue dimissioni per l'inizio di luglio, quando questo già ieri l'aveva annunciato, quando si riunirà per la prima volta la giunta. La prima notizia clamorosa è questa: la giunta di Palermo, le elezioni ci sono state verso la fine di maggio, ancora non si è riunita. Questa è la prima cosa, ancora non si è riunita la giunta a Palermo, un mese e mezzo. Anche questo è vero. Libertà di riunirsi quando uno vuole. Dovrebbe subentrare al posto di Orlando, e sta fremendo, il signor Giuseppe Vatinno. Buonasera. Buonasera. Come devo sta? Devo dire che sì, deve riunire il consiglio però comunale, la giunta si deve sì, riunire. Il consiglio, mi scusi, ha ragione lei, il consiglio comunale si deve insediare. Ma scusi, questa qua, lei Giuseppe Vatinno, anzitutto spieghiamo subito, non è più nell'Italia dei Valori, cioè che no. Era il primo dei non eletti nel Lazio, dopo Orlando, ma è passato all'API di Rutelli. Sì. all'Api di Lute, responsabile ambiente per l'Api. Due anni fa. Scusi Vatinno, io voglio capire una cosa. Responsabile? Ambiente dell'Api. Vabbè, qual è il problema? L'Api è un partito? No. Perché ironizzi, Parenzo? Non ho capito. Senti bene. Sì, ho chiesto, no, perché come al solito si senti male, perché il telefono chissà dove sei, a casa, nel solito posto dove non si sente niente. Allora, però, Vatinno, volevo chiedere subito una cosa. Ma è così necessario che si riunisca il Consiglio Comunale per le dimissioni? Per questa procedura? No, perché la legge è chiara, c'è una sentenza della Corte Costituzionale del novembre dello scorso anno, quindi dunque è una scusa questa roba qua. In difetto il giorno della proclamazione, che è già avvenuta a sindaco, quindi dunque è una scusa questa roba qua. Eh sì, di fatto è una scusa per prendere tempo. E perché vuole per prendere tempo? Ancora un po' di affari che ha la Camera e prendere il doppio stipendio, naturalmente. Ah, secondo lei l'obiettivo di Orlando è prendere il doppio stipendio? Beh, conoscendolo, sì, diciamo, è molto meno nobile, credo, la causa di quanto... Cioè sta facendo melina perché almeno se prende due stipendi, insomma, due stipendi. La presidenza di una commissione nazionale, quindi insomma... Cioè è attaccato al denaro? Beh, sì, diciamo che subisce forse il fascino. Subisce il fascino del denaro. Ma lei lo conosce bene Orlando, sì o no? Beh, l'ho conosciuto, io stavo in IDV prima che venisse Orlando, avesse iniziato nel partito quando era un movimento nel 2001, sì. Orlando è venuto nel 2006, quindi... Però scusi Vatinno, ma qui c'è un problema però ancora che riguarda Di Pietro, cioè alla fine sti Italia dei Valori sono rimasti, non dico in pochi, però c'è stata una grande, no? Totò avrebbe detto moria delle vacche, cioè una grande fuga, pure lei che dovrebbe subentrare, sicuramente subentrerà prima della fine della legislatura, via dall'Italia dei Valori. Due anni fa. Sono andato via prima. Sì, prima, non c'è dubbio. Ma perché se n'è andato via? Perché la situazione dentro l'Italia dei Valori era nettamente degenerata, tanto in che che senso, scusa? Cioè dal punto di vista etico proprio dei valori. Addirittura? Sì, beh, tant'è vero che facemmo, io sono stato diciamo l'autore principale di una mozione di minoranza all'ultimo congresso, in cui doveva schierarsi anche De Magistris come presidente del partito. Ma qual è la questione morale, scusi? Come? All'interno dell'IDV, qual è la questione morale? Sono diverse, insomma, la principale più, anche proprio in questa mozione. Comunque gliele dico brevemente: prima di tutto il comparire di personaggi dal dubbio passato, e questo sono abbastanza. Poi cosa rimprovera Di Pietro? Questo voglio poi capire. Cose strane, del tipo che esistono due Italia dei Valori, un'Italia dei Valori associazione fatta da tre persone che riscuote Il finanziamento pubblico, diciamo, i soldi elettorali, e poi il partito con lo stesso nome, che è una cosa bizzarra. Scusi un attimo, io una cosa che voglio capire, ma è vero che le preferisci l'ipoti in qualche modo Di Pietro con la questione delle rinunce nei collegi? Nel senso che c'era da scegliere di fatto tra me e Scilipoti, e alla fine fu scelto Scilipoti. Volle a tutti i costi Scilipoti Di Pietro? Sì. E come mai secondo lei? Ma motivi possono essere parecchi, magari diciamo gli era più simpatico, oppure aveva un rapporto migliore, non lo so qual è il motivo. Certamente da quanto ho capito Scilipoti ha per esempio collaborato alla campagna elettorale con del denaro, cosa che io non feci perché appunto non era negli accordi Parenzo, che dici tu? No, io dico che oggi al di là di Scilipoti il problema del futuro onorevole, quando si dimetterà Orlando, è un altro. Cioè quale? Che lui è stato legittimamente nominato e messo in lista nell'Italia dei Valori. Ora ha cambiato movimento, legittimo, è responsabile dell'ambiente, del movimento di Rutelli. Beh, secondo me etica, non etica della responsabilità, vuole che dica, che dovrebbe fare? Dimettersi pure lui? Ma immediatamente, illico e immediato, subito. Va bene, traffico, torniamo subito, Vatinno, torno subito. Bene, siamo qui, la Zanzara, 18:48, caro Parenzo, in collegamento come al solito da casa sua, dove si sente malissimo, con Giuseppe Vatinno. Ma si sente male, è accertato, a casa tua si sente male, cioè, datti pace, l'abbiamo ormai accertato, si sente male. Giuseppe Vatinno, responsabile ambiente per l'API, ex Italia dei Valori, dovrebbe subentrare a giorni a Leoluca Orlando, ma sai Parenzo che avremo tra poco il primo deputato, te lo devo dire, anche se tu magari non lo sai, il primo deputato, indovina un po', il primo deputato è Non lo sai, non lo so, tu, fisico. non lo sai. Io ho guardato amico di Rusi, ma lo so. Non lo so. Transumanista, il primo deputato transumanista. Trans? Transumanista, non trans. No. Non trans, transumanista. Mi piacciono di più i trans, ma è una cosa diversa. Beh, altre cose. È molto diversa. Dunque, molto diversa. È vero, lo affermi. Ho scritto un libro di filosofia su questa, diciamo. Ma lei è transumanista, sì o no? Come? Dica la verità, è transumanista, mica ho detto che è un delinquente. Ah, transumanista, sì, sì. Il transumanismo è una filosofia scientifica, sì, che negli Stati Uniti è molto diffusa, sì, e, diciamo, anche nel mondo, e riguarda alcune applicazioni della tecnologia, sì, avanzata a livello, insomma, della, insomma, vita quotidiana. Sarà, vabbè, un Parlamento questo... scoppiettante, caro Parenzo, perché secondo, vabbè, i trans... uno può essere anche transbubù, cioè non c'è problema. No, anche... secondo i transumanisti, per esempio, secondo io i transumanisti... sono a transbubù, ad esempio. Si potrebbe... no, non fare l'ironia come al solito, non fare dell'ironia. Ma no, ma non so che elementi... Aspetta, secondo i transumanisti si può scaricare la mente in un computer, no, per continuare a esistere come entità pensante e cosciente. Non ho capito, scusami. Beh, diciamo... Batino, glielo spieghi lei a Parenzo. Questo è un progetto avveniristico, diciamo, sì, che la tecnologia di confine ha previsto per, insomma, fra parecchi anni la possibilità di scannerizzare, sì, le reti neurali cerebrali per poi poter riprodurre su un computer, diciamo, le interconnessioni neuronali. Da questo a dire che si scarica direttamente, no, la personalità ce ne vuole. Però, no, insomma, però l'obiettivo è quello. Cioè lei... La strada potrebbe essere questa qui, diciamo. Cioè... Comunque è abbastanza scientificamente fondata. Non è... No, no, cioè, ma non mi sto piacerebbe, dicendo... ad esempio, scaricare Lulu Orlando sul computer. Perché no? Esatto, si potrebbe... un modo per toglierlo dalla memoria potrebbe essere. No, oppure per perpetuarlo fino all'infinito, perché l'obiettivo, l'obiettivo è questo. Potrebbe, no, essere un'ipotesi. Per esempio, voi siete d'accordo con la clonazione? Voi, com'è che si dice, transumanisti? Il transumanismo, diciamo, io mi sono occupato di transumanismo dal punto di vista scientifico, essendo un fisico. Vabbè, quindi tutto non finito, è proprio... No, ho capito, però da transumanista lei è a favore, è a favore della clonazione, per esempio, o no? Mi interessava, mi incuriosiva questa filosofia. Sì, diciamo, c'è la possibilità di clonazione a fine terapeutico, tra le possibilità previste da questa tecnologia. Lei ci crede alla clonazione? Comunque l'utilizzo della tecnologia per migliorare la vita dell'uomo. E anche per prolungarla. Anche per prolungare. Ecco, lei, per esempio, scusi, ma per permettere non solo la quantità di anni, ma anche la qualità. La qualità di anni. Ma è compatibile questa roba qui col movimento dell'api di Rutelli, il movimento cattolico? Cioè non mi pare. Però cattolico, non è che sia un movimento... Invece ci sono state anche delle riunioni fatte, tra chi, scusi? Delle giornate di studio comuni con la Chiesa Cattolica, proprio su questo tema. Sul transumanesimo. A comunque Pistoia. È eccezionale che ci sarà per la prima volta, credo per la prima volta, un deputato transumanista fra poco, quando Orlando, no, si diventerà... in Europa credo che ce ne siano. No, in Italia dico, in Italia. Sì, in Italia. Probabilmente sì. Lei sarà... credo che ci siano in Belgio e in Germania. Sarò il primo deputato transumanista. Voglio portare la clonazione, aumentare e prolungare la vita umana. Anche Berlusconi voleva vivere fino a 120 anni, eh? Beh, sì, devo dire che in questo, insomma, era un'idea vicina a questo movimento. Beh, vede che poi dall'Italia dei Valori, ma passo dopo passo, passando per l'AVI, si potrebbe arrivare pure a Berlusconi e a Don Berzè, il povero, però, Don Berzè. Questa è una mia attività come giornalista. Vabbè, lei ci crede, però ci crede alla possibilità di vivere fisico, fino... non è, d'accordo, la mia attività principale. Però lei ci crede alla possibilità di poter vivere fino a 120-130 anni? Scientificamente sì. Ah, lei, diciamo, ci crede? Questo è possibile con particolari, diciamo, accorgimenti, alimentazione, moto e anche degli integratori. E anche cose scientifiche, poi, naturalmente. Sì, no? Molto scientifiche. Insomma. No, anche cose scientifiche, immagino, tecnologia. Se ne parla spesso nel mondo scientifico, non è un'ipotesi. Così. Hai capito, Parenzo? Arriveranno pure gli alieni. Comunque io sto leggendo il manifesto dei transumanisti italiani. Sì, e qual è il problema? Come? Qual è il problema? No, è che è un movimento polimorfo e multiculturale. E beh, cosa noi prendiamo come un... È un complimento. Una cosa positiva. Scusate, ma lei ha scritto che Orlando ha la faccia come il, scusi? La parola esatta è C.O. C.O, che significa... Però non so bene... Ma questa è una trasmissione in cui si può utilizzare si anche... Può dire. Sì, si può dire. Come il cumulo? Come il cumulo? Che cos'è C.O? credo che sia, forse sì, ha ragione lei, il cuculo, insomma, è una frase aperta, si usavano alle cuculo, medie. Però ha detto che si dimette, ma secondo lei proprio non ci pensa allora? Nemmeno ma penso che non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello, no, ma lei... c'è da dire una cosa, che siccome decadrà automaticamente il 13 luglio, perché la giunta ha, diciamo... ha fatto un procedimento di messa in mora, no? Scusate. Quindi anche se il 9, come io sì. immagino, non si rimetterà, sì. lo dovrà fare, comunque decadrà automaticamente 5 giorni dopo. Però al di là adesso... Che stai ridendo, Parezzo? Che no, ride? Io della... Aspetti, aspetti un attimo, Vatino, che dici? Sto studiando. Vatino, scusi un attimo, aspetti. Transumanisti? Sì. E sto facendo il test che c'è, io invito i radioascoltatori ad andare www.transumanisti.it perché fra poco ci sarà il primo deputato transumanista. Sì, andate lì, io sto facendo il test, sei transumanista, questo test permette di testare il tuo tasso di transumanesimo. E vabbè, qual è il problema? Scusa. Meraviglioso. Dovrebbero i genitori avere il diritto di potersi riprodurre attraverso la clonazione una volta stabilito che questa tecnologia è sicura? Risposta: no! Poi, la, no, tua, no. No. La tua è no. Comunque, pensi che gli esseri umani, Vatino, chi è che sarebbe? Vatino, scusi, sì, dobbiamo concludere un attimo. Ma lei chi è che vorrebbe, per esempio, un parlamentare che vorrebbe clonare, un uomo politico che vorrebbe clonare? Diciamo personaggi che soprattutto del passato. No, ma uno del presente. Mi dica uno del presente. Gente come uno del presente. Ah, Moro d'accordo. Persone come Berlinguer, ma tutti grandi. E uno del presente? Della patria. Uno del presente? Nessuno. Uno del presente? Rutelli. Una persona che io ho apprezzato, a parte Rutelli, perché non altrimenti la non clonazione di Rutelli. Un attimo solo, giornale radio. Giornale per... radio. Ipertiroideo gossiparo di bassa lega. Un uomo arrogante che crede di possedere la verità assoluta su qualsiasi argomento e non fa nemmeno parlare alla gente per pura soddisfazione personale. Spero lo assumano come voce bianca a Radio Maria. Quello che non lascia parlare gli ascoltatori, ma invece per ore lascia parlare i borghezzi di turno. Pessimo conduttore, arrogante, aggressivo, irrispettoso delle idee altrui quando si tratta di gente comune, ma sempre supino con colleghi e potenti. Bella trasmissione fino all'arrivo dell'inutile Parenzo, che l'ha fatta precipitare a livelli bassissimi di decenza e di profondità degli argomenti trattati. Un giornalista dipendente, volgare, che tratta il pubblico radiofonico come se fosse mentecatto. Ha trasformato lo spazio della fascia oraria di punti in un porto franco per pettegolezzi e pruderie da postribolo, ha sdoganato radio parolaccia. La zanzara, ovvero come sciacallare sulla gente per fare ascolti, condotto da due patetici guitti, viscidi come pochi ed assolutamente speculari a molti dei politici che intervistano. Un ciarlatano che urla il nulla in diretta, ma chi è così masochista da ascoltare una trasmissione così insensata? Sono alcuni dei commenti che potete trovare sul sito del Fatto Quotidiano, sul sottoscritto e su Parenzo. Grazie. www.ilfattoquotidiano.it. Vi prego, leggetelo, scrivete, insultate, scrivete, partecipate e viva la democrazia. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Altalena di dichiarazioni al vertice europeo. Prima la Germania apre sugli eurobond, poi corregge il tiro. La nostra linea resta sempre la stessa. Dura trattativa e tensione con la Merkel, più largo il fronte di chi chiede una svolta. Il socialdemocratico Schulz, evitiamo una nuova guerra europea. Crisi per Confindustria come una guerra, il PIL crolla, meno 2,4%. Marchionne sulla sentenza di Pomigliano, è solo folklore locale. La preoccupazione di Napolitano per la conflittualità tra i partiti, riforme impossibili in questo clima, il voto nell'aprile del 2013. Berlusconi replica a Napolitano sulle riforme, ci stiamo provando, duro il PDL, basta interventi esterni, Bersani vogliono far saltare il tavolo. Via libera della Corte Suprema alla riforma sanitaria di Obama, vittoria insperata e importantissima per il presidente anche in vista delle elezioni. La doppia partita fra Italia e Germania, a Bruxelles, Monti sfida la Merkel e tra poco in campo gli azzurri che si giocano contro i tedeschi la finale europea. Zanzara Party di questa sera, Hugh Grant, l'attore pizzicato, come sapete, per carità, va benissimo, con una prostituta tempo fa, attacca Berlusconi al Parlamento Europeo a scoppio ritardato. Hugh Grant ci fa lezione su Berlusconi, sentiamo. We've not really had a proper democracy, and I think some people would argue that the same was the case in Italy under Berlusconi, and so you've got two evils, you've got state controlling media. And on the other hand, you've got the media controlling the state, which you really have in the UK. And we were here to just raise the flag about the media controlling the state. Tutti quelli che amano l'Italia, e nessuno ama l'Italia più di me, sono stati preoccupati nel vedere l'influenza di Berlusconi non solo sulla democrazia, ma anche sulla cultura. E poi parla anche di un pericolo a scoppio ritardato, Hugh Grant. Cosa non si fa per farsi notare pure al Parlamento Europeo? Ma non ho capito, però dice delle bestialità. No, è come sparare sull'ambulanza, magari può anche avere. Ma dice anche proprio delle bestialità sesquipedali. Ma perché il Parlamento Europeo invita il signor Hugh Grant? Questa è un'altra buona domanda. Soprattutto, perché voglio dire, no? Invitate Stiglitz, invitate Krugman. Perché invitare il signor Hugh Grant? Sì, era un convegno sui new media o cose ma di questo. Ma quale convegno? Quali new media? Di cosa parliamo? Intanto la Santanchè ha affossato in questo modo le primarie del PDL. Le primarie con Berlusconi in campo non hanno più senso. E beh, l'avevamo capito. Se Berlusconi decidesse di essere il candidato premier, beh, allora sì, facciamo pure le primarie, ma non avrebbero nessun senso. Poi non solo dice la Santanchè che Berlusconi non deve finire ai giardinetti, ma nemmeno Bossi. Nemmeno Bossi, secondo la Santanchè. Vabbè, appunto. Bossi comunque non mi sembra che sia sulla panchina ai giardinetti, perché mi sembra che in queste ore, in questi quello giorni, è Crozza, Bossi... dice lei. Eh? Quello è Crozza. Sì, no, infatti mi sembra che Bossi, insomma, abbia ancora molto da dire e molto da fare. Beh, adesso molto da dire e molto da fare, Bossi, si potrebbe discutere fino all'infinito, eh. Vabbè. Avanti. Beh. Il grande il grande ritorno di Annarella contro Verdini. Ora c'è un po' di demagogia, un po' di richiesta, un po' di populismo, un po' di antipartito, spesso urlato nelle piazze. Anna, Dio un po', con me. Però Berlusconi se n'ha dannato. Il dirigente di Verdini. C'è rimasto solo Berlusconi. È già andato. Oppure... L'unico merito che può aver avuto è stato quello di fare da spalla e megafono ai più squalidi personaggi che la politica italiana abbia mai sopportato. Cruciani è molto superficiale come giornalista, ormai molto orientato al gossip parlamentare. Sarebbe meglio sparisse dai palinsesti e se ne perdessero le tracce per sempre. Questo è buono, eh? Ce ne sono altri. Una persona schierata a destra, arrogante, maleducata e irrispettosa che assieme al pessimo Parenzo conduce un programma del tutto inutile che serve solo a sbeffeggiare i politici. Se ne andasse a fare in culo, il programma di disinformazione per eccellenza, secondo solo al Forcipe. Forcipe è quello che va in onda su Radio 1, in contemporanea. Il Forcipe lo chiamano. Questi pacati commenti sul sito del Fatto Quotidiano. Benissimo. 800 24 00 24, questa è la Zanzara e voglio farvi sentire però una delle frasi del giorno pronunciata dal questore Cicolani, lo voglio sentire, quello che ha dato del lavoro a Cammarata, poi è stato costretto alle dimissioni, l'ex sindaco di Palermo, che era stato portato per regolare la spending review, per sovrintendere i risparmi degli enti locali, lui che aveva affossato Palermo, un percorso endoprocedimentale aveva portato Cammarata al Senato, non le raccomandazioni di Schifani, secondo Cicolani. Ci saranno. Devono criticare me per queste scelte. Che c'entra? Che lui fa parte di un percorso endoprocedimentale, cosiddetto, no? Ma cosa interessa alla gente se io mi avvalgo di Tizio o di Caio per farmi, per darmi delle carte che poi sono carte oggettive. Eccoci qui, allora Giuseppe Vatinno è sempre con noi, fra poco subentrerà, lui spera naturalmente quanto prima, anche se non è molto ottimista, Leo Luca Orlando, responsabile ambiente dell'API. Però siamo alla clonazione, io oggi la voglio sequestrare per questa storia della clonazione. Allora andiamo, io volevo parlare di Orlando più che del trampolino. Ma Orlando abbiamo già detto, secondo lei non si dimette perché vuole questi piccola stipendi. Nota e poi parliamo sì, di altro. La nota, ma qual volevo è? Dire che è una storia abbastanza triste per l'Italia in questo momento, addirittura triste, cui monta l'antipolitica, e non è, chiaramente io sono di parte, però anche se non fossi stato coinvolto, e lo sono stato in passato in questo fronte contro chi non si dimetteva quando avrebbe dovuto. Comunque, guardi, adesso vedremo, speriamo che dopo l'inizio di luglio tutto si regoli, Orlando si dimetterà. Però resta comunque, insomma, la presa in giro di 50 giorni. Mi faccia concludere. Anche se poi si prevede un lasso di tempo di 30 giorni, comunque, in ogni caso, anche Tidei ci ha messo diciamo un po' di tempo. Che dovrebbe decadere automaticamente il 13 luglio. Senta, sì, ho capito. Vatinno, allora, lei che è favorevole alla clonazione, o comunque spera che ci sia la possibilità con il transumanesimo di clonare le persone, mi con dica la scienza, più che con la scienza, certo, anche col transumanesimo, è uno dei cardini del transumanesimo. È una filosofia che riferisce alla scienza. Assolutamente. Allora, abbiamo già detto, facciamo l'elenco delle persone, dei politici attuali ancora in vita che lei clonerebbe. Che clonerei, di cui trasliamo questa sua richiesta, di cui ho stima. Esatto. Sicuramente Prodi. Che è stato presidente del Consiglio, con cui poi ho anche collaborato nel 2008 sull'energia, sull'ambiente. Prodi il primo. Rutelli lo clonerebbe? Rutelli mi pare una persona, un politico da clonare. Quello che sta succedendo in questo periodo difficile, stimabile, se no non entrerei in API in questo momento. Certo, non c'è dubbio. Poi difficile per il partito, io che non ho mai conosciuto Lusi. Certo, sul podio chi c'è della clonazione? Oltre a Prodi e a Rutelli in questo momento? Mi pare che Bassino. Non lo so. Clonerei subito Prodi e Rutelli. Monti lo clonerebbe? Nel passato sicuramente, Berlinguer è stato una Moro, personaggi che hanno fatto Monti lo clonerebbe? Monti lo clonerebbe, sì o no? Monti, diciamo che lo clonerei, però vorrei declinare un attimo questa affermazione, nel senso declinare, che è una persona, secondo me, valida, un intellettuale, no? Tu, e giustamente sulla clonazione è chiusa, è caduta la linea. Benissimo, che vuoi dire, Parenzo? No, sono basito, avevo un po' di domande da fare al futuro. No, non ci sono domande da fare, andiamo a sentire Luca da Torino. Buonasera. Sì, dica. Sì, niente, io mi riferivo all'inizio, all'intervento di entrata di Marchionne e il folklore locale. Trovo sbagliato, per carità, la sua uscita, come tante altre che non stanno in linea. Però io sono un imprenditore e vi assicuro che assumere oggi in Italia è un peso psicologico davvero, davvero forte. E io ho un'azienda in Italia con 13 dipendenti, quindi allora? Un artigiano, niente di che. Però resta... Ho capito, fondo, è una frase infelice oppure ci sta? Me lo dica subito. La frase è purtroppo il contesto è giusto. La frase è forse infelice, bisognerebbe cominciare ad agire con qualche dato oggettivo in più. Va bene, Mario da Catania, non ho capito niente. Mario da Catania, qui non è che bisogna andare troppo per i sottili. Lei è dalla parte di Marchionne oppure no? Punto e basta, no? Bisognerebbe ragionare su qualche dato. Ci sono delle frasi dette, punto, su quello si giudica. Mario da Catania. Sì, pronto, buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Senta, dottor Cruciani, vorrei intervenire sull'argomento che lei ha introdotto sull'avvocato di Palermo per la sua pensione super favorosa. Signor Crosta, sì, allora? Dottor Crosta, era una notizia vecchia di un anno fa, vi dicendo, però lei ha dato una notizia solo parziale, in quanto, come lei sa, questa legge è stata voluta dalla maggioranza di centrodestra che governava la Sicilia. Sì, allora? Perché la Sicilia è stata sempre determinante negli equilibri di Berlusconi, vincente in Sicilia sarebbe il governo del paese. Guardi Mario, non entriamo nel dettaglio, la cosa fondamentale è che c'è un signore che prende 41.000 euro di pensione al mese, che a un certo punto si riesce a limitare questa pensione, cioè a dimezzare quasi, e comunque sempre una pensione consistente, 227.000 euro l'anno. Adesso fa ricorso per riottenere la pensione precedente. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Cruciani dovrebbe andare a lavorare in miniera. Il suo è uno dei programmi radiofonici più inascoltabili proprio perché c'è lui a condurlo. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così. Berlusconiano Doc. Sull'erba butto spesso il psicori. Un ciarlatano, il nulla in diretta. Ma chi è così masochista ad ascoltare una trasmissione così insensata? È il conduttore più volgare che ci sia, a mia conoscenza. Una persona schierata a destra, arrogante, maleducata, irrispettosa, che assieme al pessimo Parenzo conduce un programma del tutto inutile. Del tutto inutile. Insopportabile leccone ed arrogante. Siamo qui, la Zanzara, viviamo e lottiamo insieme a voi. 800 24 00 24. Sarebbe meglio Cruciani sparisse dai palinsesti e se ne perdessero le tracce per sempre. Patrick da Milano, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, vada. Allora, prima di tutto sono il masochista di turno. Sono il masochista di turno. Lei è il masochista di turno, in che senso? Sì, che vi ascolto, sì, sì, sì. Come dicevano su quel sito che non mi ricordo. Vabbè, lei comunque si definisce il masochista di turno. Che vuole dire a Parenzo, sì. Allora, la differenza fra lui e sì. Berlusconi, sai qual è? Qual è? È che lui è un nano sfigato. Sì. E Berlusconi è un nano che si tromba la Polanco. Ma stai calmo, stia calmo, signor Patrick, signor che Patrick. Che personaggio il signor Patrick, il che levatura. Il fine intellettuale della Zanzara, signor Patrick da Milano. Prosegua, prego, nella sua elucubrazione, signor Patrick. Sì, poi vorrei capire una cosa, perché Parenzo è così frustrato? Perché Parenzo è così frustrato? Ma perché è così frustrato? Che ne sa lei che è frustrato? Scusi, Patrick. Ma si sente, ma parla peggio di una checca isterica. Vabbè, ma qui... Parenzo, come rispondi? No, io voglio solo sapere del signor Patrick. Sì. Perché lei si rovina così e beve così tanto? Perché? Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza, perché voglio andare a sentire Domenico da Como. Signor Domenico? Sì. Buonasera Cruciani, dica. Domenico non è più tenero del precedente ascoltatore, sì. Io ho ascoltato adesso tutto ciò che vi ha criticato il Fatto Quotidiano. Ma non è il Fatto Quotidiano, sono dei commenti che sono apparsi su un sito, ma noi li abbiamo letti in diretta perché, sì, giusto, perché giusto. Ci pigliamo le pietre addosso. Sì. E avete fatto bene a sì. pubblicarli, questo è un fatto pregevole perché... allora che vuole da noi? Sì, no, questo è un fatto pregevole. Cosa voglio? Sì. Se riesco a parlare senza essere zittito come tutti i vostri ascoltatori... Dipende da quello che dice se mi gira in un certo modo, se mi gira la zittisco, altrimenti gira, no. Se le gira, sì, e io sono un altro masochista come l'ascoltatore... Vada. Quello che le volevo dire sì. è che voi fate una trasmissione in un orario molto importante. Io sì. seguo Radio 24 dal mattino fino alla sera, sì. fino a quando fanno addirittura le repliche di, sì. di Giannino Di Nicoletti. Ma lei è malato, cioè segue... No, io non sono malato. Segue le trasmissioni due volte, scusi. No, le seguo quando le perdo, no. Quando le perde, sì. Allora voi, no. voi le fate per chi l'ha perso, scusi. No, pensavo che le sentisse due volte, per carità, va benissimo, no, però no, insomma, no, no, magari no, uno qualche perdo, problema potrebbe averlo in questo caso. Guardi, io apprezzo davvero moltissimo questa Radio 24. E allora vada al sodo, mi piace moltissimo. Sì. La vostra trasmissione sì. non mi piace per niente, anzi, devo precisare una cosa. E perché ci ha chiamato allora, scusi? Aspetti, mi scusi, se mi fa parlare... ho capito, ma non è che possiamo fare il comizio tutta la sera. L'impostazione della vostra trasmissione è eccellente. Sì. I conduttori, lei in prima persona, siete pessimi. Siamo pessimi, benissimo. Sì, siete pessimi perché non avete quella sensibilità di ascoltare sì. appunto gli ascoltatori che hanno qualche cosa da dire al loro modo. Benissimo, non sono Domenico, io l'ho ascoltata fin troppo, lei ha detto la sua, benissimo. Si figuri se non ascoltiamo gli ascoltatori, siamo qui per questo. Sara, come stai? Ciao amore, benissimo, e tu? No, ma amore, ma chi è? Sara Tommasi, scusa, è grande protagonista delle notizie di questi giorni. Ma noi però siamo molto gli alieni. No, gli alieni, lascia perdere. Sara, siamo molto preoccupati. Selvaggia Lucarelli sul Libero ha scritto che bisogna venire in tuo soccorso. Sì. Cioè, perché hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di aiuto, sì o no? No. Non hai bisogno di aiuto. No. No. No, però scusa, no. Com'è questa storia degli alieni? Perché l'ultima che hai detto è questa qua, cioè che hai girato questo film porno perché hai due microchip alieni nel cervello, com'è questa storia? La solita cosa pubblicitaria? Eh? La solita trovata tua per far parlare di te? No, dicono che sia stato girato questo film. Ma come dicono? È stato girato o non è stato girato? No. Pronto? È stato girato all'estero. Ma? È stato... No, non è stato girato. Ma come non è stato girato? Dai, Sara, su, è stato girato. No, no, dove la tele viene? Non è vero, non è stato girato. Ho visto delle scene su YouTube. Ma abbiamo... È stato girato, sì o no, questo film? No, no, la burla delle Iene per far parlare un po' del cinema porno che tanto alletta l'Italia. Ma che c'entra Iene? Infatti sarà in prima puntata a settembre quando rinizieranno con questo programma che destra l'antiascolto. Ah sì, è vero, perché le Iene sono andate sul set della signora Tommasi. Sì. E mandano in onda il reportage a settembre. Vabbè, ma non è che c'è solo questo, però ne parlano tutti. Anche, anche questo presunto produttore, il regista, ne parlano tutti. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere, non si sa. Poi vedremo se è stato girato o no. Ma questa storia degli alieni, siamo curiosi di sapere questa storia degli alieni. Preoccupati anche. Anche preoccupati un po', devo dire. Allora raccontaci un po' questi microchip degli alieni in testa, com'è questa storia? Ma no, mi rifaccio IT, telefono casa. Ti rifai a? IT, telefono casa. AET? Ma che vuol dire AET? Ma che dice? Sì, ma... Scusa Sara, però oggettivamente dobbiamo essere preoccupati o no? Noi che siamo tuoi amici, dobbiamo essere preoccupati sì o no? Al di là di AET, degli alieni, tutte queste storie ci hanno fatto preoccupare un sacco. Marra che dice che è ripiena di droga, tutte queste cose qui. Siamo molto molto preoccupati noi che siamo tuoi amici. Bisogna essere preoccupati, sì o no? Sì, sentendo qui sì, mi pare. Un po' sì o no? No, no. Tu è tutto a posto? Ti serve aiuto? Sì, mi serve un bel... No, stiamo calmi. No. No, stiamo calmi. Dimmi, dici sinceramente, noi ti siamo amici, lo sai. Ti serve aiuto, ti sì o no? Ti conosciamo, ti vogliamo bene. Ma no, non è successo niente, semplicemente una burla delle Iene per l'apertura del programma di settembre. Solo quello, non c'è niente, non hai girato nessun film, non c'è nulla di nulla. Nothing, none. Nothing, cioè niente. È tutta una trovata pubblicitaria per il programma delle Iene. Solo questa, la colpa è delle Iene. Pronto? Vabbè, poi quando ti richiamiamo più tardi che è meglio, così cerchiamo di parlare un po' più, perché altrimenti questi piccoli gemiti, questi piccoli cenni ci fanno preoccupare assai, molto, no? Molto. Parenzo, va bene, dopo, dai. Ecco, siamo preoccupati, che dobbiamo dire? Non parli, siamo preoccupati perché abbiamo letto anche l'articolo, come citava il direttorissimo Gruciani, della nostra amica... Chi? Su Libero? Sì, c'è la nostra amica Selvaggia Lucarelli che dice che qualcuno dovrebbe aiutare Sara Tommasi. E noi abbiamo chiamato per sapere se avevi bisogno di aiuto, di qualcosa. Che siamo spaventati. Ma chi la conosce? Chi l'ha mai vista? Ah, signora Lucarelli non la conosce, signora Selvaggia Lucarelli, no. Cos'è sta musica? No, non era successo delle Iene. Vabbè. Sara, ci sentiamo più avanti, non si capisce. 19:42, 800 24 00 24, Roberto da Udine. Buonasera. Vada. Sì, vada, Roberto. Intanto un saluto affettuoso a Sara. Beh, anche poi, scusi, perché la chiama Sara? La conosce lei? No, insomma, la chiamate Sara voi perché non posso chiamarla. Sì, Sara, per carità, lei può fare quello che vuole, però. Chip, ho un microchip. Anche lei ha un microchip nel cervello? No, al di là del microchip che abbia o non abbia Sara, rimane sempre una ragazza simpatica. E va bene. Allora? Guardi, allora. Io non condivido, vi ascolto sempre, non condivido e il giudizio che vi ha dato prima l'ascoltatore, vi ha detto che siete pessimi. Quello no, però diciamo qualche volta imprecisi, quello sì. Lei soprattutto, Cruciani, lei deve essere, deve abituarsi a essere più preciso. Ma noi non siamo qui per essere precisi. Ma no, ma lei chiede la precisione agli altri. No, affatto, non chiedo affatto la precisione agli altri, lei si sbaglia. Lei pontifica a volte. Io non pontifico nulla, esprimo le mie opinioni. E lo fa spesso. Allora, le dico subito dove lei è stato impreciso. Ieri, quando appunto il suo collega di trasmissione, a proposito delle assunzioni della sanità in Lombardia, ha detto che soprattutto sono entrati quelli di CL. Sì. E lei ha replicato dicendo, beh, anche in Emilia-Romagna in qualche modo sono entrati quelli di sinistra. No, allora, io ho detto un'altra cosa, ho detto che... Oddio mio, ma lo vede che non ha capito quello che ho detto? Già critica se non ha capito quello che ho detto. Come fa a criticare? Scusi Roberto, ma abbia pazienza. Io ho detto che a livello di assunzioni clientelari scagli la prima pietra quello che è innocente. Ha capito, sì lei, o no? Lei non ha detto così, lei ha fatto riferimento all'Emilia-Romagna. Ma guardi che la differenza degli ospedali delle cliniche dell'Emilia-Romagna in Lombardia è una differenza sostanziale, mentre in Lombardia, come dire, abbondano le cliniche private e nelle cliniche private vengono assunti soprattutto quelli di CL. Gli ospedali in Emilia-Romagna sono pubblici, quindi si entra per concorso. Io sto dicendo che ci sono altre realtà in cui le raccomandazioni, i rapporti clientelari esistono tali e quali alla Lombardia. Lasci perdere pubblico, privato, eccetera. Vabbè. Ho detto esistono altre realtà dove la gestione clientelare delle nomine, eccetera, eccetera, avviene allo stesso modo. E questo è innegabile in Sicilia, come in Piemonte, come in Emilia-Romagna, eccetera, eccetera. Che sia pubblico o che sia privato. Anzi, se uno è privato non è un problema. Ci sono delle agevolazioni clientelari nel pubblico. Ma guardi, c'è differenza tra clinica privata e ospedale pubblico. Va bene, peggio ancora se queste logiche clientelari esistono nel pubblico. Ma voglio dire, ci sarà una differenza tra un'assunzione diretta e un concorso pubblico? Non si parla solamente di assunzioni, si parla naturalmente di appalti, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, mi pare lampante che ci siano delle gestioni clientelari, ma non per questo, le gestioni clientelari possono anche a loro modo essere virtuose. E in regioni, in altre regioni e non solo in Emilia-Romagna, questo volevo dire. Non mi pare una cosa scandalosa, mi pare un dato di fatto. Comunque, per quanto riguarda l'imprecisione, ha fatto replica oggi, perché quando lei è intervenuto dicendo che la magistratura è intervenuta pesantemente sulla Fiat, con la Fiat stabilendo il numero degli assunti, non è vero niente. Non è vero niente, perché la magistratura è intervenuta, come dire, su una decisione che ha della FIA di Marchionne. Il risultato qual è di questa decisione? Il risultato è che in qualche modo nelle assunzioni sono stati esclusi tutti. Benissimo, quelli che il risultato è adesso che la Fiat deve assumere, se naturalmente alla fine dei ricorsi, eccetera, se questa sentenza verrà confermata, deve assumere un tot di persone, giusto? Tutto, ma il peccato è all'origine. Poi vedremo se sarà un peccato oppure no, se sarà dimostrato in ultimo grado. La ringrazio, Roberto. Pasquale da Foggia. Buonasera Cruciano, due flash rapidissime. Volevo fare due osservazioni. Prima, da molto tempo, sarò anche fuori tema adesso, ma voglio dire soltanto... Lei non è mai fuori tema, caro Pasquale, giusto. Un'osservazione, lei spesso ha dato molto spazio a Borghezio. È stato ospite in questa trasmissione due o tre volte, qual è il problema? Cioè colui che ha inneggiata al massacro che ha fatto quello della Norvegia, non mi ricordo. Breivik, sì, il caso, un anno fa è successo questo. Allora quando lo si poteva denunciare per apologie di reato. E perché non l'ha denunciato lei? Perché non l'ha denunciato? Vada ai carabinieri e lo denunci. Un'altra cosa volevo dire. Mi dica. L'abolizione della tassa sulla prima casa, fatta da Berlusconi l'ultimo giorno, promesse e poi attuato l'ultimo giorno della campagna elettorale, è stata soltanto una catastrofe. Perché? Mi sembra un argomento già molto arato, come dire, no? Probabilmente ha ragione lei. Pasquale, un attimo solo, chi aveva una sola casa, praticamente già pagava pochissimo o niente per l'abbattimento che c'erano. Allora, con gli occhi, come dire, con il senno di poi, probabilmente quella decisione è stata un errore perché ha peggiorato i conti pubblici, soprattutto degli enti locali. Caro Parenzo, dove sei? dove sono? Sono sempre a casa. Abbiamo con noi 800 24 00 24 il uno dei leader di SEL, il partito guidato da Nicky Vendola, Fabio Mussi, di nuovo alla Zanzara. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Che meraviglia. Bene, bene, sono in vista mare a Piombino. Aspetta la partita, immagino, no? Sì. Come certo, tutti, mica mi farà il tifo per la Germania lei, no? Ma scherzate. E che ne so, sa, è un mondo di matti questo qua. No, non dico che lei è matto, però sa, ogni tanto qualche italiano travaglio dice che fa il tifo per la Germania. Io amo molto la Germania, avendo un po' studiato in Germania, avendo fatto filosofia, essendomi occupato di filosofia tedesca, quindi amo molto la Germania, ma... Però, diciamo, quando si va sul sacro, si va sul sacro. Esatto. Qui c'è, per esempio, uno come Travaglio che dice: io faccio il tifo per la Germania, altrimenti questi qua cancellano Scommessopoli, come è successo per Calciopoli. Ma come si fa? Io? Quando uno è di fronte alla partita, è di fronte alla partita, c'è poco da fare. Su. Mi pare che quella deve fare il suo corso. Io penso che. Bisogna essere molto severi perché... Certo, però che c'entra poi la competizione, però il campionato? La competizione. Sì, bisogna, come si dice, fortemente distinguere. Senta, Mussi, ha sentito l'ultima frase pronunciata dal signor Marchionne? Poi ha precisato, rispetterò la legge, però ha detto che la sentenza di Pomigliano fa parte del folklore locale e per locale non si riferiva a Pomigliano, si riferiva all'Italia, dove secondo lui insomma i tribunali rompono le scatole e ci sono troppe procedure burocratico-amministrative, eccetera, eccetera. Ecco, come giudica questa cosa? Un giudizio lapidario. Mi è venuto in mente un famoso episodio del 68, quando... con la rivolta degli studenti in corso, Parigi sottosopra, il generale De Gaulle prima lasciò la Francia e poi dall'estero, prima di entrare, pronunciò la famosa frase «Réforme, oui, chien li», cioè «Cagnara, no». E gli studenti francesi fecero subito un manifesto con una vignetta del generale De Gaulle con scritto «La chien li, c'est lui». Ah, traduca. Cioè la cagnara, il carnevale è lui. Dunque, la cagnara la fa lui, dice. Sì, ho l'impressione che il carnevale sia Marchionne, diciamo, che è venuto con quest'idea che ora tutti i miei ordini perché sennò io non faccio gli investimenti. Molti sono messi ai suoi ordini, hanno piegato la testa, ma c'è stata una fortissima resistenza ovviamente e gli investimenti non ci sono, no? Marchionne tanto dovrebbe sapere che ci sono dei diritti umani e del lavoro, che c'è una legge, che la legge non è mai carnevale, diciamo, come lo definisce questo atteggiamento di Marchionne, che parla appunto di folklore e considera molte delle procedure che ci sono in questo paese, i ricorsi ai tribunali eccetera, tutta una cosa superata? Io intanto vorrei sapere che fine ha fatto il progetto Italia, ve lo ricordate voi? Fabbrica Italia, dice lei. Fabbrica Italia, eh? No vabbè, è un progetto che è in corso, è in corso d'opera. È in Cina, Marchionne, mi pare. Avrebbe dovuto già a questa data investire 1 miliardo su Mirafiori e mi ricordo bene l'annuncio sulla base del quale si è fatto il referendum: rinunciate ai vostri diritti perché così io tiro fuori i soldi, erano 20 miliardi per il progetto Italia, nessuno l'ha visto, diciamo, Fabbrica Italia, quella roba lì come la chiamava lui, nessuno l'ha visto, nel frattempo... Da quando c'è lui è vero che c'è una crisi del mercato automobilistico, ma quando il mercato perde 10 la Fiat perde 20, quando il mercato guadagna 7 la Fiat guadagna 1. Beh, non si può essere contenti di questo, no? No, non ho ancora capito però se Marchionne sa fare le automobili, oltre che diciamo... Oltre che? Oltre che bacchettare e punire il sindacato e i diritti dei lavoratori. Mi pare che questo Marchionne sia un colossale bluff. Senta, un altro discorso interessante è venuto a galla negli ultimi giorni, è questo avvicinamento tra il Partito Democratico e l'UDC. Ora, che si realizzi o meno questo accordo, lei ce lo vede Vendola, il suo, tra virgolette, Vendola, a braccetto con Casini? Io sono un uomo di sinistra, educato alla scuola del PCI, dove ci insegnavano che bisogna sempre fare una politica di alleanze. Quindi sono assai vaccinato, ma è dal punto di vista filologico che non ho capito bene. Filologico addirittura? Sì, sì, sì, devo capire bene perché Cassini ha usato la stessa formula di Bersani, no? Mm. Alleanza dei progressisti e dei moderati. Sì, sì. Progressisti è un termine molto vago. Molto diciamo, vago, molto vago. Datemi l'Europa, l'Europa dove ci sono i partiti socialisti, socialdemocratici, la Democrazia Cristiana, la destra, la sinistra, cioè tutto quello che è uscito dalla storia politica moderna, sì, dalla rivoluzione francese in poi. No, qui l'alleanza dei progressisti e dei moderati. Ora, sui moderati vorrei tra un attimo, se voi permettete, avere una piccola discussione con voi. Ma io, se non ho capito male, Casini dice che questa alleanza è quella che sta sostenendo Monti? Beh, Casini sì, assolutamente. Ah, ecco, cioè vuole. Beh, ma anche il PD anche il PD sorregge Monti. No, eh? No, PD no. Beh, sì, come PD, PD ora sostiene Monti, però non propone poi la di piattaforma di Monti, sì, certo. Di andare alle elezioni alleati di Berlusconi, no? No, quello sicuramente no. E Casini invece? Voi avete capito cosa avete capito? No, Casini vorrebbe un Monti bis, vorrebbe la stessa cosa, cioè la grande coalizione anche dopo. Però scusate. Ho capito, dunque lei dice questa cosa qua è incompatibile, lei dice. Io dico che... non si farà mai questa alleanza? Il discorso che facciamo al PD è, amici cari e compagni cari, nelle amministrative in questi due anni... Abbiamo vinto quasi dappertutto con un'alleanza di centro-sinistra. Sì. Raramente con l'UDC dentro, diciamo. Molto raramente. Sì, molto raramente. E naturalmente non si può escludere alleanze allargate, ma se non si ritrova un ubicon system, un progetto di centro-sinistra, al quale magari possono aderire anche altre forze, eccetera. No, l'UDC però. Non andremo, No, l'UDC mi pare di capire. Beh, l'UDC deve decidere da che parte stare. Naturalmente io escluderei radicalmente, per quanto ci riguarda, che si possa andare avanti con maggioranze parlamentari di unità nazionale. No, però questo è chiaro, però lei Mussica è una persona chiara, mi deve dire, io non mi ci vedo, Sell non parteciperà mai a una coalizione insieme all'UDC, perché questo è alla fine, invece in realtà anche voi traccheggiate, cioè magari per rientrare in Parlamento, magari... No, se volevo, vede, io ho guidato una minoranza dentro di esse che non ha aderito al PD. Sì, sì. C'erano... 20 deputati e 10 senatori, i quali sapevano benissimo che con quella scelta 90 su 100 avrebbero perso il posto, compreso il sottoscritto naturalmente, e hanno fatto lo stesso una scelta perché credevano all'esigenza che in Italia restasse una sinistra politica. Allora faccia un appello a Bendola, con Casini mai. Non hanno condiviso, e quindi se voi dite perché la poltrona tornare in Parlamento, no, lei, con noi siete con noi di SEL siete assolutamente fuori strada. Allora, torniamo subito dopo la pubblicità, 800 24 00 24. Eccoci qui alle 8 in punto, mentre si avvicina la grande partita 800 24 00 24. Però noi siamo abituati a dire pane pane, insomma, le cose come stanno, caro Mussi. Allora, lei è chiaramente incompatibile con il signor Casini. Questo è evidente, cioè non c'è una cosa, penso, che avete in comune con Casini, se non, diciamo, Casini da poco. Sono uomini tutti e due. Beh, sono uomini, quello non c'è dubbio. Sì, ecco, l'unica cosa. Forse l'unica cosa. Perché non dice chiaramente, noi con Casini non ci andremo mai? Allora, sentite, amici cari, simpaticissimi interlocutori, se si arriva da qui alle elezioni, non so quando saranno, diciamo, probabile 2013, ma non escludo sorprese, in una discussione Casini sì, Casini no, io chiedo asilo politico Bora Bora, diciamo. Noi siamo di fronte ad un'enorme crisi che non è solo di una nazione, di un sistema. Ma questo lo sappiamo. Cioè, il capitalismo finanziarizzato e globalizzato non funziona più. Va bene, allora, io voglio discutere su come si affronta questa crisi, ripartendo da alcune categorie, da alcuni concetti, da alcuni valori fondamentali. D'accordo, questo lo sappiamo, però alla fine si parlerà anche di alleanze, caro Mussi. Sì, ho capito, allora però se si riparte dalle questioni, naturalmente i moderati, chi sono i moderati in Italia? Perché per esempio su alcune questioni Casini è molto estremista. Per esempio? Cioè uno che ritiene che non si debba riconoscere i diritti delle coppie di fatto, per esempio. Sì, che è la mia grande... È un estremista, diciamo. È un estremista. Uno che pensa che io debba essere nutrito forzatamente, artificialmente, bravo, anche se sono in condizioni vegetative contro la mia volontà, perché bravo, lo dice la Chiesa. È un criminale. Non è un moderato, è un estremista, no? Un criminale, direi, no? È un criminale. È un estremista. Un estremista. Uno che dovesse pensare, per esempio, che ottima cosa è abbondante un sistema legislativo per cui un terzo dei giovani è disoccupato e quelli che trovano lavoro, quasi tutti lo trovano con contratti precari, non è un moderato, è un estremista. Io sono un moderato perché vorrei che i diritti di tutti venissero riconosciuti, che il lavoro venisse rispettato e ben pagato. Che è un po' il Bengodi, che è un po' una sorta di sogno. Scusi, Perché così è un sogno, anch'io penso che sarebbe stupenda la piena occupazione, però è impossibile, insomma. Perché? Come perché? La piena occupazione è impossibile, caro Musio. Ma voi non conoscete i padri del capitalismo, i quali hanno scritto dall'origine che la prima grande promessa del sistema capitalistico è la piena occupazione. Ho capito, ma è la promessa, appunto. Lo so, ma se non c'è, allora c'è qualcosa che non funziona, diciamo. Vabbè. Lei mi sta dicendo, con la storia dell'estremista, però, che è molto interessante, che Casini è totalmente incompatibile con Sel sui programmi. Che ci sono molte distanze, ma io non escludo i ravvedimenti operosi. Di Casini, si dovrebbe ravvedere per una conversione. Però voglio vederli all'opera sulle questioni, sulle scelte, certo, sui programmi, perché... il PD è sempre detto primo il programma, sì. No, ora lo diciamo noi di senso, sì, prima il programma, vediamo che cosa bisogna fare in una situazione drammatica come quella italiana, europea e mondiale, e poi le alleanze verranno, diciamo. Non si può rovesciare logicamente. A proposito di alleanze, lei conosce, caro Mussi, la signora Sara Tommasi? Leggo ogni tanto. Pure lei legge. No, beh, se Mussi legge di Sara Tommasi, è tutto finito. Se Fabio Mussi sa di Sara Tommasi, mi si rivolta un mondo. Avrà letto le res gesta. Vedo sui giornali. Vede sui giornali le gesta di Sara Tommasi. Ha mai visto la signora Sara Tommasi senza veli, per caso? No, mai. Questo non mi è capitato, questo però. Non si occupa di queste cose, però sa chi è Sara Tommasi, già questo. Cioè, Sara Tommasi è talmente trasversale che di lei sanno Fabio Musico, uno storico dirigente del Partito Comunista Italiano, ospite questa sera alla Zanzara, e sicuramente moltissime persone che ci stanno ascoltando, che compulsano Inter. Sicuramente Berlusconi, non c'è dubbio. Cara Sara, come stai? Sara, come stai? Benissimo, adesso che ti sento, amore mio. Non dici amore mio, sennò qui la cosa, come già mi hanno scritto in 40 persone, è una cosa di grande... Sai che mi rassicura molto il fatto che chiami soltanto te, amore mio. Sono abbastanza... Perché ti rassicura? Sono un uomo, come direbbe il grande Mussi, da boschi e da riviera, però vorrei scegliere sia i boschi che le riviere. No, scusami Sara, allora chiama amore mio anche Parenzo, così almeno... No. Sara, vai pure, vai, sei autorizzata. Ho già i miei problemi io. Sei autorizzata, no. Sara. Buonasera, madre mio. Ecco, benissimo. Buonasera, signora. Allora, però buonasera. Io voglio capire una cosa. Sara, questa storia dei chip nel cervello che ti hanno costretto a girare questo film, signora, come Tommasi. Dire, Osè, per dire una cosa, Osè. È una cosa che ti sei inventata tu l'altro giorno? No. Ma come no? È vera, cioè che ti hanno messo dei chip degli alieni nel cervello? Dai, su, Sara, non mi fare preoccupare. Magari. Però. Perché magari? Magari. Perché magari? No, come ti dissi, è stato tutto programmato dalle Iene. Oddio, questa programmazione delle Iene. L'hai girato sto film porno, sì o no? Questo che voglio capire, l'hai girato sì o no? Una mia socia. Una tua sosia, adesso è diventata novità, nuovo scoop di Sara Tommasi. Era una mia sosia, non eri tu? Pronto? Zitto. Che è successo? Chi c'è qua? Dove sei? A casa di chi? Dove sei innanzitutto? A casa tua, a Roma? Ma guarda che queste frasi tue dette no, così no, è incomprensibile veramente. Beh, no, ma ci fanno preoccupare assai noi che siamo amici preoccupatissimi. Siamo molto preoccupati, siamo molto preoccupati. Comunque, vabbè, tentiamo più avanti, che dobbiamo fare? Tanto dobbiamo fra poco salutare anche Mussi. Conosci il signor Mussi, Sara? Unfortunately not. Come? Come? Ah, sfortunatamente no. Unfortunately not. Ah, sfortunatamente no. Parla anche in inglese molto bene. Va bene, ci sentiamo più avanti. Ci sentiamo. Ma io voglio avanti. Chiedere, arrivederci a Fabio Mussi, voglio chiedere questo. Perché ecco, la Fornero che dice che il lavoro non è un diritto, a proposito appunto, di lavoro. Come la giudichi? Secondo me ha fatto benissimo, secondo la mia modesta opinione. Anche perché la frase non era così. La frase era un po' si più articolata. Beh, se peccato sia morto Freud, perché dopo i saggi sul lapsus freudiano, avendo la Fornero a disposizione, poteva scrivere un meraviglioso saggio sulle gaffe freudiane. È roba da Freud, dici? Sì, sono le gaffe, no? Cioè, quando gli chiese la prima volta degli esodati, lei disse, siamo mica qui a distribuire caramelle, sembrava Crozza. Un'altra volta, quando gli è stato detto che per le integrazioni ci voleva un tot di miliardi, ma questi sono paccate di soldi, mentre 248 miliardi di euro finiti negli ultimi 4 mesi alle banche italiane all'1% di interesse, cioè soldi dei contribuenti che vengono dalla BCE, quelli non sono una paccata di soldi. Ed ora gli esce che il lavoro non è un diritto, quando invece il lavoro è esattamente un diritto. Beh, un diritto adesso, è un diritto. Sì, è una possibilità, insomma. No, cioè, no, amici miei, si costruisce con... Purtroppo il lavoro è un diritto, articolo 1, articolo 3... Sì, però, caro Mussi, se fosse un diritto non c'è, uno dovrebbe appellarsi ai tribunali, se fosse un diritto inalienabile, uno ogni tutti i disoccupati dovrebbero andare in tribunale a citare lo Stato perché non amici mi dà miei, lavoro. Amici miei, ma proprio voi forse sapete che è esistita ed esiste anche su scala mondiale una cosa che si chiama... movimento operaio che per 2 secoli si è battuta per ottenere il lavoro e spesso si è avvicinato a situazioni di piena occupazione. Quando sono stati forti i lavoratori è cresciuta l'occupazione, sono cresciuti i salari. E questo anche è l'unica situazione con alta occupazione ed alti salari nei quali il capitale si innova, cioè va a cercare l'innovazione. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma Sell, si è parlato di scioglimento nel PD, deve rimanere, vive e vegeta Sell? Sì, certamente sì, perché il PD si chiama Partito Democratico, in questo paese prima o poi rinascerà anche una forza politica che si chiama sinistra, come nel resto d'Europa. Dunque Sell rimane, non si scioglie nel Partito Democratico? No, non si scioglie nel Partito Democratico, diciamo, non facciamo... nel partito dei contadini quando c'era il Poso in Polonia. Senta una cosa, se vince Renzi le primarie del Partito Democratico che succede del centro-sinistra? Se dovesse vincere Renzi? No, ritengo la cosa non la prendo neanche in considerazione. Addirittura? Perché non la prendo neanche in considerazione. Cioè sarebbe una sciagura per la sinistra italiana? Non la prendo neanche in considerazione. No, capito, però. Diciamo, c'è una cosa fuori da ogni possibile... cioè, come voi sarebbe... voi sapete che ci sono eventi che nel ragionamento, nella nostra testa, noi non prendiamo in considerazione. Cioè... è un po' come dire Berlusconi legalità, è uguale. No, è uguale. Potrei prendere in considerazione il fatto che mentre sto parlando su un terrazzo con voi vengo colpito da un asteroide. Questo potrebbe succedere, diciamo. Però scusi, concorre però Renzi. È un evento che in questo momento non prendo in considerazione. Però Renzi concorre, fa grande campagna in tutta Italia. C'è Giorgio Gori dietro di lui, che è un grande comunicatore, esperto di comunicazione. Magari può vincere. Cioè, è più facile. Naturalmente la sinistra ha bisogno di un leader che pensa che i sindacati siano in piccio, che la prefetta del 1° maggio vada abolita, che Marchionne, Montezemolo, Marcegaglia, Squinzi e chiunque altro hanno sempre ragione. Diciamo, come leader della sinistra sarebbe un caso mondiale, cioè lo studierebbero i sociologi di tutto il mondo. Va bene, grazie a Fabio Mussi, grazie Mussi. Buona partita, 20:10, pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, Maurizio, provincia di Lodi. Oggi con gioia dico Forza Italia. Meno male, ci mancherebbe altro. Oggi, solo oggi dico Forza Italia. Allora, chi c'era? Chi ho chiamato? Maurizio dalla provincia di Lodi. Allora, Maurizio, dica. Sono io. Sì. Ma senta, io adesso stavo ascoltando la trasmissione. Come l'ho accesa? Che quando sono entrato in macchina per venire a casa dal lavoro, ho sentito una notizia che non lo so, non ho capito bene, ma è vero che c'è qualcuno che sta facendo un ricorso su una pensione che sta prendendo adesso da 20 e la vorrebbe riprendere da 40.000 euro? Esatto, proprio così. Signor Crosta, si chiama Crosta. Crosta? Signor Crosta. Ma io non lo so, ma questo signore qua lo sa che con la sua pensione da 40.000 euro al mese ci campa una famiglia di 4 persone per un anno? Lo sa, lui rivendica un diritto perché le leggi gli hanno permesso questo scempio. Questo è il problema drammatico, caro Maurizio. In fin dei conti, il signor Crosta, ma non bisogna nemmeno prendersela col signor Crosta, che è stato un alto funzionario della Regione Sicilia. Bisogna prendersela con quelli. Ma come fa a prendere 41.000 euro al mese? Ma cosa ha fatto nella sua vita questo qua? Dice di aver lavorato 45 anni e poi c'è una leggina, un'ultima leggina che gli ha permesso evidentemente di attaccarsi all'ultimo stipendio, o a poco meno dell'ultimo stipendio, che era di 460.000 euro. È uno scandalo inaudito, caro Maurizio. Poi dice che la Merkel ha torto e poi dicono carissimo che il Sud... Luciani, ma noi non ce la facciamo più. Già giusto qualche mese fa sentivo che in quella regione, cazzo, ci sono il triplo dei dipendenti che ci sono in Lombardia. Ci sono un dirigente ogni 10 dipendenti della regione. Ma dico, madonna, ma sono cose che diciamo ormai da anni. Dai partiti, ma che fa? Cioè, ma fermiamo questo scempio qua, fermiamolo, dobbiamo fermarlo questo scempio. A me lo dice Maurizio. Ma sono cose che diciamo da anni, vengono scritte da anni, denunziate da anni. Ci vuole il commissariamento. Ha ragione chi dice che è ingovernabile, alcune zone del sud Italia sono ingovernabili. Ci vuole il commissario. È incredibile quello che sentiamo ogni giorno. Eppure, cazzo, ma a me va bene, i partiti ci devono essere per lei forza. Cosa farebbe con 1.400 euro al giorno? Cosa farei con? Cioè, io mi metto anche nella testa di questo signore che si chiama Crosta, signor Crosta, alto funzionario della Regione Sicilia, il quale naturalmente parte da 1.400 al giorno, a un certo punto gli levano queste 1.400 al giorno, ne prende poco più di 700, la metà, e si attacca a un cavillo giuridico e vuole il mal tolto, secondo lui. Non si accontenta di 700 al giorno, non al mese. Al giorno, caro Maurizio. Ma io che prendo 2.500 euro, mi sento un privilegiato al mese. Mi sento un privilegiato. Ma questo Crosta qua, cazzo, ma non si rende conto che può campare veramente una famiglia di 4 persone per un anno intero col suo cazzo di pensione di 41.000 euro al mese? Ma non è colpa sua, Maurizio, non è colpa sua. Non è colpa sua. Ma anche lui dovrebbe avere un po' di non lo so, ma dico, ma come fa a fare ricorso? Ma ne prende già 20.000, che mi sembra già un'esagerazione. Ma dove da matti, io non lo so, ma dobbiamo fermare questo scempio qua, porca miseria, ma i politici ma devono mettersi in testa che la gente ne ha abbastanza di purtroppo di lo sa come rispondono in questo caso, Maurizio? Rispondono dicendo che ci sono le leggi, i cavilli giuridici, perché la rovina dell'Italia sono i cavilli, le leggi, i ricorsi, traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara. Andiamo a Roma, Giovanni, mentre fra poco collegamento con Varsavia, con il mitico, intramontabile Carlo Genta, che è riuscito ad arrivare miracolosamente a Varsavia per la partita dell'Italia. Giovanni, Zanzara International anche a Varsavia, ottimo. Zanzara International questa sera. Giovanni da Roma. Buonasera Cruciani, non so se si sente perché sto guidando, si sente bene? Sento, ma dica. Ma costi però. Allora, preparate l'ambulanza che così dopo me la mandate. Io voglio fare una proposta e una domanda. Sì, faccia la sua proposta e la domanda. Avanti. Che vorrei andare in vacanza con Parenzo Cruciani e mettiamo pure Scalfarotto e Cecchi Paone. Io mi porto soltanto Vittorio Sgarbi, ci state? Sì, vabbè, ma lei può fare quello che vuole, Giovanni. Perché non, no, do, perché non dovremmo volere anche voi, perché non dovremmo perché non dovremmo essere d'accordo, scusi? Allora, un giorno ci andremo. Poi, dopo tutte queste cose, quelle che avete letto sul Fatto Quotidiano, non sarebbe ora di cambiare qualche cosa? Ma guardi che a me non me ne frega niente di quello che scrivono nei commenti di del fattoquotidiano.it, cioè li ho letti perché volevo offrirvi l'impasto, volevo darvi l'impasto. Sì, ma perché lei pensa che siano significativi per decidere come va o non va un programma il fatto che di leggere quei commenti lì, Giovanni? Lei pensa che sia significativo? Ma perché cretini? Chi è cretino? Quelli no, significativi, non ho detto cretino, dove l'ha sentito cretino? No, non avevo capito che siano cretini. Ma no, ma chi ha detto cretini? Ma lei sta sognando, non ho affatto detto cretini, tutt'altro. Cioè, ognuno ha diritto di esprimere le sue idee. Ma guarda, cioè, io la seguo dall'inizio della Zanzara, ma questa trasmissione era così bella. Fino a quando c'era ancora Luca Telese, non lo so, era... Ma soprattutto dal cambiamento dalla parte sua, che non gliene frega proprio più di niente. Cioè, si dà un ascoltatore 20 secondi perché c'è il telefono Sara Tomasi. Ma perché lei sta parlando 20 secondi? No, io adesso lei sta parlando 20 secondi? Lei sta parlando 20 secondi, sì o no? Cosa avete fatto? Ma di che parla? Ma di cosa ma di cosa sta parlando, Giovanni? Di cosa parla? Ma di cosa parla? Di cosa stiamo parlando? No, di cosa sta parlando lei, non di cosa sto parlando io. Ma vuole capire che questa trasmissione non è la tua, è la nostra. Ma gli ascoltatori, guardi, certamente, è esattamente per questo che faccio questa trasmissione. Allora, si prende al cuore quello che gli dicono, quello che io lo benissimo, infatti sto ascoltando, dopodiché giudico quello che lei dice, oppure non posso. No, lo può fare. E allora, punto e basta. Se lo giudica sempre in verso suo. Ma in verso suo, che vuol dire? Io lo giudico per come la penso. Certo, non è che lo posso giudicare sulla base di quello che pensa lei. Caro Giovanni, fermo lì. Carlo Genta da Varsavia, eccoci. Eccoci, Giuseppe, così almeno entro a vedere la partita. Poi magari vai avanti a parlare con Giovanni. Ma dove sei? Scusami. Sto per entrare in entra. Qual è il problema? Entra. Non si sente nulla. Ah, perché c'è il rumore, dici? Perché è come essere all'Hollywood e tu lo sai benissimo. Sì, perché ci sono dei suoni pazzeschi, dei suoni pazzeschi. Senti, ma com'è ti facevo sentire l'annuncio delle formazioni, se mi chiamavi 10 minuti fa. Ma penso che tu le sappia già, no? Ma sì, le sappiamo tutti ormai le formazioni. Più o meno con Abate che non gioca, no? Più o meno Abate che non gioca, Chiellini che gioca, Balzaretti dall'altra parte, resta tutto uguale. Senti, ma vuoi che ti faccio le solite domande inutili sull'atmosfera che c'è? Sai di solito la classica domanda che si fa in questi casi? Caro Carlo, che atmosfera c'è dentro lo stadio? E dunque non te la faccio questa cosa qui. Voglio sapere cosa hai fatto oggi. Cosa hai mangiato oggi? Dove hai mangiato oggi a Varsavia? Questo voglio sapere. Cosa ho mangiato oggi a Varsavia? Un'insalata, faceva molto caldo. Un'insalata? Tu vai a Varsavia e mangi un'insalata? E io mangio un'insalata a Varsavia, faceva molto caldo, Giuseppe. Poi dovevo lavorare, dovevo andare in giro, tu lo sai. Quindi fa molto caldo a Varsavia. Poi stasera si vedrà, stasera si vedrà. I ceci con le cotiche oppure... Io conosco talmente bene Carlo Genta che so che il suo interesse per l'esito finale di questa partita è vicino allo zero. Vicino allo zero, cioè non gliene frega assolutamente nulla di chi vince. No, farà il suo lavoro come al solito, è stato inviato lì di Radio 24, eccetera. Però l'interesse di Carlo Genta per l'esito finale di Italia-Germania è zero, zero totale. Al contrario, caro Carlo, se vuoi entra dentro lo stadio, al contrario, Oliviero Toscani pare che tifi per la Germania. Oliviero, chi l'ha detto? Mi piace questa storia. Ma qualcuno, un uccellino mi ha detto che fa il tifo per la Germania. Un uccellino mi ha riferito che influenzato magari dal signor Travaglio. Dal signor Travaglio che Travaglio ti farà per la Germania? Ah, non lo sapevi, te lo dico. Allora non sei stato influenzato da Travaglio. È divertente Travaglio. Sì, assolutamente, sì. Ma la bisbetica domata. Senti, chi è la bisbetica domata? Scusa, chi è la bisbetica domata? È Travaglio. Ma perché lo definisci una bisbetica domata? È un po' bisbetico, no? Beh. Un po' una zitella così, un po' incazzatina sempre. Infatti, a me mi piace molto. A me impazzisce, mi fa impazzire Toscani perché non ha peli sulla lingua, non gliene frega niente. Cioè, inizia non ho niente da perdere, caro Crociano, mica come te che c'è uno stipendio, tutto da perdere. Ma guarda che per le cose che dico sono quasi... Non lo perderai mai, ti daremo sempre un piatto di minestra a casa mia, non c'è problema. Senti, ma allora... Travaglio sarebbe bello si fare per la Germania, solo che gioca contro l'Italia non si può. No, dimmi la verità, la però Germania non fare politicamente corretto. Fare la vera squadra con tutti i figli di immigrati. Noi abbiamo, sì, abbiamo nel Ballotelli che è stato adottato, ma non è un vero emigrato. E ce lì sono figli di turchi, di tutta questa gentaglia che i tedeschi non volevano, ma che adesso gli serve. Mm. Ma ti piace questa cosa o no? Beh, insomma, interessante. Sono arrivate delle forze da altri paesi che i tedeschi non avevano. Senti una cosa, ma no, ma però sii sincero, fai il tifo per la Germania, su. Ma perché devo fare il tifo per la Germania? Ma sì, ma lo so io che in fondo tu sei un bastian contrario, dunque stasera ci sarà grande tifo per l'Italia. E... beh, io faccio un grande tifo per la Germania, ma purtroppo vincerà l'Italia. No, adesso hai bruciato l'Italia questa cosa qua. No, comunque è chiaro che abbiamo vinto perché non perdiamo, No, beh, appunto. Carlo? Calcolo delle probabilità, diventa sempre più difficile. Dove ti trovi? Sono sulla bocca della tribuna stampa. Che succede lì? Sono sulla bocca della tribuna stampa, non ti sento praticamente più. Ma che succede lì? Niente, che deve succedere? Succede che adesso giocano a pallone, Giuseppe, senti? Sì, sì. Il casino è questo. Mamma mia, quel solito... Formazioni annunciate, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto tranquillo, tranquillo. Fammi la tua previsione, su. Fammi la tua previsione, su. Non c'è neanche un italiano, non vedo neanche un italiano. Questo è stato una costante per tutti i campionati europei, ma fammi una tua previsione così al volo. La mia previsione? Sì, al volo. Germania 1-0. Io ho scritto, anche se poi c'è un gioco su Twitter che si chiama Tweet Euro 12, straordinario, che hanno inventato alcuni amici. Ho scritto, ma le persone pensano che io faccio delle previsioni per azzeccare il risultato. No, è tutta una strategia per vincere dei punti. Comunque ho detto 1-1 e poi Germania qualificata, non so come, se è supplementare o ai rigori. Dunque andiamo più o meno nella stessa direzione. È così. Carlo, ti lascio allora con questo rumore che è insopportabile. Ti abbraccio. Il tuo interesse è zero, no? Zero, abbastanza zero. Sì, abbastanza zero. Vicino allo zero. Abbastanza vicino allo zero, benissimo. 800-24-00-24. A me fa impazzire Toscani perché ha definito Grillo un duce in una bellissima intervista di Malcolm Pagani uscita ieri sul Fatto Quotidiano. Addirittura vicino a Goebbels. Parla come Goebbels. No, Goebbels era molto intelligente, ma lui parla come Goebbels. Cioè, vabbè, sì, questo è la, no? Questa caricatura, questo modo di parlare, sì, un po' da dittatore, eccetera. Sì. Però lo voti, hai detto. Come? Però lo voteresti, hai detto. E cosa vuoi votare, se no? Gli altri non c'è niente. Gli altri non c'è. Bersani? Bersani purtroppo è sparito, è diventato trasparente. Non, io sono sempre stato un grande sostenitore di Bersani, ma... purtroppo non c'è più, poveretto. Come non c'è più? Sta lì, propone l'alleanza. Appunto, sta lì, ma non c'è. Propone l'alleanza con Casini, si vuole avvicinare a Casini. Sì, appunto, pensa che bello. Cosa consiglieresti a Bersani? Capisco il campanilismo, ma bisogna stare attenti a non fare le cazzate. Ma il signor Casini, sempre così abbronzato, che poi dice che vuole rimanere in Parlamento anche a Ferragosto, tutto abbronzato. È un figo, lui lo sa, no? È molto figo, solo che prende pochi voti in confronto a quanto figo è. Beh, questo è vero, questa è una buona osservazione. È vero. È una buona osservazione. Gli italiani che hanno questo senso estetico del Made in Italy, lui in fondo... Vabbè, che anche Rutelli, ma Rutelli sai proprio non ci arriva, per quello che non li prende. Senti, ma tu hai, in questa intervista fantastica hai detto, ma Monti, di che può parlare? Di arte, di cinema, di figa? È un ragioniere, ma quello dovrebbe fare il Presidente del Consiglio, mica deve parlare di figa, già abbiamo già avuto... No, non deve parlare di figa, ma dico, ma tu, Monti, ha la stessa età dei Beatles, cioè la mia anche. Sì, sì. Ma tu pensi che negli anni 60 lui fosse in giro a capire quelle cose lì? Ma no, ma studiava... Ma no, proprio non gli è passato sopra tutti gli anni 60. Ma meno male! Non ha detto niente. Meno male, era la Bocconi a studiare, di questa abbiamo bisogno. Ma tu pensa che disastro questi qua della Bocconi. Ma perché? Non ne beccano una. Ma al di là di questo, è meglio uno della Bocconi che uno, piuttosto che uno che parla di figa come Berlusconi. Ma uno... no che parla di figa, ma qualcuno, un artista, qualcosa. Tu senti, quanti milioni di turisti vengono in Italia ogni anno? Beh, tantissimi, sì. E cosa credi, che vengano a vedere le banche? No, ho capito, ma là c'è un ministro... Cosa vanno a vedere i turisti in Italia? I monumenti, il mare... Sai, i monumenti, quelli della Bocconi. Ma no, ho capito, però ci sarà qualcuno che si occuperà del turismo, non è Monti che se ne deve occupare. No, non è questione del turismo, vengono a vedere l'arte. Allora? E l'arte non veniva fatta da chi studia la Bocconi. I bocconiani sono un disastro, dici. Diamo più spazio a chi ha immaginazione, fantasia, nuovo modo di vedere, ma di per fare, carità, ma saremmo nel ma saremmo nel disastro se comandasse uno che ha fantasie eccetera, piuttosto che uno ma che è stato la Bocconi. Pensa, l'Italia comandata da un Fellini, fantastico. Ma un'Italia comandata un'Italia comandata da Toscani. Mondo, ma scherzi. Un'Italia comandata da Toscani saremmo alla bancarotta, tu lo sai. No, figuriamo, non ci sarebbe neanche più bisogno dei soldi. Appunto. Appunto, bancarotta, ma se ne frega dei soldi. Allora, abbiamo la borsa, torniamo appunto per parlare di soldi. Fra 4 minuti ti richiamiamo, prima della partita. Borsa. Eccoci qui, 20:33, 800-24-00-24, Massimo da Perugia, anzi prima c'era... Che è successo, Parenzo, che è successo? Aspetta che qui c'ho un grande ospite al mio fianco. Chi è? Chi è? Dov'è? C'ho un ospite al mio fianco che ti vuole salutare, un ospite pazzesco, le grandi sorprese della Zanzara, incredibile. Che è uno che è venuto a casa tua a vedere la partita, questa lo, è la realtà. Lo devi riconoscere però dalla voce, aspetta che te lo passo. Oddio, chi ha invitato esclusiva a vedere la partita? Per Radio 24, in diretta dalla terrazza di Parenzo, ti passo una persona. Devi riconoscere chi è. Chi è? No, lo devo mandare a lui? Però perché mi sembra che... No, no, non ho tempo, un attimo. Io sono negato per riconoscere le persone. Chi è? Adesso te lo ripasso, però devi stare attento. Andiamo avanti intanto. No, ma ho capito, che ha fatto? È scappato? Che ha fatto? No, è qui, però sta facendo una telefonata molto importante. Ma chi ha invitato nel terrazzo di casa sua? Innanzitutto io non riesco a capire ancora una cosa. Perché il direttore del Sole 24 Ore non è a casa a vedere la partita, è ancora al giornale. Io ancora lo devo capire questo. No, il direttore del Sole 24 Ore è al giornale e può e vedrà la partita. Quindi, perché le televisioni non esistono solo a casa, ti è chiaro? Cioè, scusa, non ho capito. Tu mi stai dicendo, Roberto, che tu vedi la partita al giornale? No, certamente. Da solo e con chi? Circondato da chi? Adesso vedremo quanta gente si affollerà nella mia stanza. Per ora sono ancora solo, ma vedrai che si affollerà parecchia gente. Ma la partita è meglio vederla solo o male accompagnato? No, bene accompagnati. Bene accompagnati. Bene, molto bene accompagnati. Qui c'è molta buona gente che può stare benissimo e stiamo benissimo insieme. Dici, Dici. Ogni tanto però possono venire anche delle persone non particolarmente gradite. Vabbè, però insomma non è questo il punto. Senti, ma qual era il titolo che hai fatto in tedesco recentemente? Noi che non leggiamo, noi la Zanzara non leggiamo il Sole 24 Ore, certo, di solito. Snell Frau Merkel. Nel Frau Merkel. Fai presto, signora Merkel. Fai presto. Come si potrebbe ribaltare in termini calcistici questa cosa? In termini calcistici, 3 rigori a favore dell'Italia. L'Italia accontenta la Germania, super piena attuazione delle richieste tedesche di rigore, però vince l'Italia attuando i dettami della Germania. 3-0, perfetto. Ma però scusami, direttore. Ma dimmi, è più facile, omaggio al direttore del Sole 24 Ore innanzitutto, come tuo solito. Del Sole 24 Ore, come tuo solito. Immensi saluti da Roma e le voglio chiedere, ma è più facile non, che non gli dire da Roma, non gli dire da Roma, sennò gli prende un coccolone. No, io sono in questo momento a Milano, allora, sono contento di stare a Milano, però quello che voglio dire ai radioascoltatori, ma questo lo sappiamo, possono perdere l'appuntamento con il Sole 24 Ore di domani. Ma lo sappiamo, facciala fare noi la marchetta, però, se no, altrimenti se la fai tu è un disastro. Vabbè, però c'è domani la grande crisi, quindi non perdete appuntamento con la grande crisi. Ti sei messo a scrivere anche un libro? Non è un libro, noi abbiamo... Ma è firmato Roberto Napoletano, sì, signore, però. È la raccolta di tutti i nostri editoriali sistematizzati. Sì. Collocati temporalmente, perché noi abbiamo il dovere in questo momento di spiegare ai nostri lettori come stanno le cose. Questo è il dovere del Sole 24 Ore. E questo lo sappiamo. E quindi il Sole 24 Ore ha preso questo titolo che è simbolico, fate presto, e attraverso questo titolo, fate presto, che è un editoriale che noi facevamo a novembre dell'anno scorso. Che ha fatto epoca, è stato anche molto criticato, però quando una cosa viene criticata e in parte anche irrisa, significa che ha centrato il suo obiettivo. Però francamente... Solo non per correggerti, ma le critiche sono state molto limitate. No, ma guarda, le critiche sono positive. No, le critiche sono sempre ben accette, però certo. È stato il titolo dell'anno. Non c'è dubbio. Ed è un titolo che si è inserito nel solco di una tradizione che reputo molto importante, molto opportuna. Cioè, noi abbiamo voluto rispettare algebricamente i rigori del Sole 24 Ore e quindi abbiamo voluto dare l'allarme che dovevamo comunque dare. Domani in questo libro firmato Roberto Napoletano ci sono tutti gli editoriali degli ultimi? No, dell'ultimo anno. Noi vogliamo raccontare questo anno terribile ai nostri dell'ultimo lettori. Anno, benissimo. Lo sistematizziamo, diamo una chiave di lettura perché pensiamo che, ecco, per esempio, momento, per noi ignoranti di queste cose, noi della Zanzara ignoranti di queste cose, è un libro fondamentale, cioè in cui noi possiamo come dire riprendere, possiamo come fanno gli studenti, no, possiamo recuperare attraverso questo libro. Dunque, per tutte le persone che magari sono perse delle cose, che non vogliono riannodare il filo del discorso, qui parlo seriamente, questo libro può essere una guida molto utile. Però una domanda che volevo fare a Napoletano, caro Parenzo, la prima cosa che mi viene in mente, lo sai qual è, David? Qual è? È questa, è come i titoli, tra i titoli, una grande gara tra titoli. Nel 2011 il titolo più bello è stato Fate presto, oppure quello del giornale del 31 dicembre? Dillo tu, Parenzo, ti prego, dillo tu. Dillo tu. Beh, il titolo del giornale del 31 dicembre recitava così: è stata la culona. Io ne ho comprate 4 copie di quel. Io 5. Allora, il grande referendum che vogliamo lanciare qui alla Zanzara è questo: è stato meglio il titolo Fate presto del Sole 24 Ore, oppure è stata la culona? Oppure è stata la culona? Beh, diciamo che sono due titoli che hanno tutte e due a che fare con la crisi, però hanno, come dire, un tocco diverso. Pure diverse. Ecco, ma Roberto Napoletano andrebbe a dirigere il giornale? Io volevo, a proposito, prima di risponderti a questa domanda, io amo il Sole 24 Ore e quindi finché mi lasciano qui voglio dirigere solo il Sole 24 Ore, sia chiaro. Sia chiarissimo. Detto questo, sceglierei Snell Frau Merkel, perché noi abbiamo detto fate presto agli italiani e gli italiani hanno fatto prestissimo, perché il governo Monti è arrivato 10 giorni dopo quel la titolo. Nostra richiesta. Noi abbiamo scampato il pericolo più grave, perché dopo la Grecia toccava l'Italia. Però dimmi la verità, ti è piaciuto quel titolo? È stata la culona? Giornalisticamente è stato eccezionale. Nel solco del giornale è stata la culona. Non è, devo dire che non è un titolo, come dire, che ti si addice. Appunto, ecco, se questo devo, come stile. Veramente non come è, stile. Però devo, no, io perché ci tengo, no, per carità, poi voglio dire, ogni giornale ha il suo modo di titolare e quindi ha il suo modo di rivolgersi al suo pubblico, certo, perché certo. Anche diciamo il, come dire, il pubblico di riferimento è importante, quindi rispetto e, come dire, al lavoro, Messaggero non è che facevi i titoli che facevi al suo, che fai al Sole 24 Ore. Assolutamente, però quello che ci tengo a dire, ecco, se posso dire una cosa con un, come dire, precisa che mi riguarda, siccome una delle discussioni che si è fatta sul titolo Fate presto era sul carattere cubitale, ecco, quel carattere cubitale del titolo è stata una precisa scelta, come spiego nel libro di domani. Che domani Parenzo, per prima cosa, la prima cosa che farà, comprerà insieme a tanti altri Inno Italiano. Grazie Roberto Napoletano. Inno d'Italia. Grazie a voi. Inno Italiano, brividi anche qui alla Zanzara. 8-0-0-24-0-0-24. Sì. Avanti, no, però dimmi chi è. Non fare la grande esclusiva della serata. E qual è la grande esclusiva? Ma la cosa pazzesca, adesso te lo passo e te la vedi tu. Sono, come dicono Oxford, sono cazzi tuoi. Aspetta. Ma vuole, magari vuole sentire l'inno tedesco. Pronto, con chi parlo? Sono Giuseppe Cruciani, chi è? Io sono Filippo Facci, chi è? Lo chiedo anch'io. Oh, Filippo, ti piace più l'inno tedesco o quello italiano? È una brutta gara, perché quello italiano è una marchetta orribile basata su un principio binario musicale, sì, e quindi preferisco, tutto sommato, preferirei in condizioni normali quello tedesco, però ovviamente per motivi sentimentali è chiaro. Preferisco. L'unico bravo che ho sentito eseguire bene il vino italiano è Daniel Barenboim, che insomma è un ebreo tedesco in pratica. Allora dovete sapere che Filippo Facci, che da lunedì condurrà in onda sulla 7, da lunedì al venerdì, cioè, guarda come sorrido. Che sorridono, chi? I tedeschi, chi? Vabbè, comunque Filippo Facci è un grande esperto di musica, per questo è così preciso in questa sua disamina dei due inni, quello italiano e quello tedesco. Grande esperto di musica, anzi forse è più esperto di musica che di politica, caro Filippo, no? Assolutamente sì, anche perché di politica non c'è niente, cioè solo finzione, nessuno si intende di politica. Vabbè, adesso non esagerare, dai, su. Perché vuol dire intendersi di politica? Cioè me lo spieghi, io sono... Ma così la storia della politica italiana, un minimo di conoscenza di quello che è accaduto, eccetera. In realtà tu sei un grande esperto di musica classica ed è quello che il filo che hai, per esempio, è il trade union con il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Sì, è vero, è vero, questo è vero. Non su tutto, perché noi siamo stati protagonisti di un dissidio storico. Sì. Posso raccontarti una cosa che non ho mai raccontato pubblicamente? Certo. Allora, quando c'erano tutte, insomma, le polemiche che riguardavano le proteste dell'orchestra nei confronti dell'Orcardo Muti, stiamo parlando di qualche anno fa. Sì. Il colpo di grazia fu un mio articolo di una pagina e mezzo pubblicato sul Foglio dove facevo a pezzi Riccardo Muti. Perché lo so? Sì. Perché Riccardo Muti telefonò a Fedele Confalonieri quel mattino, era un sabato, e annunciò per la prima volta le sue dimissioni. Dopodiché Fedele Confalonieri telefonò a Giuliano Ferrara per dirgli ma che, perché, ma che è successo, dopodiché telefonò a me. Questo spiega la ragione per cui sono a conoscenza di questa cosa. Quindi non è stato proprio idilliaco l'inizio con Fedele Confalonieri. E poi, come dire, nonostante questo trade union con Confalonieri, questo non ti ha facilitato le cose nell'ultimo tempo a Mediaset, diciamo la verità, nell'ultimo periodo, nonostante questo legame, no? Cari teleascoltatori, anzi radioascoltatori, il conduttore Giuseppe Cruciani vorrebbe farmi raccontare un episodio che io non sono minimamente disposto a raccontare, ma che riguarda appunto il fatto che le, come dire, raccomandazioni possono sortire un effetto anche negativo. Esatto, bravo. E diciamo solo questo, ogni tanto le raccomandazioni, che pure ci furono, diciamo le segnalazioni, tenetemi da conto, come dice Ferrara, questo ragazzo, in realtà invece di sortire effetti positivi, t'ammazzano, te danno la coltellata. E vabbè, succede anche questo. È molto disturbata. Scusa, io voglio capire una cosa, perché non fai un inizio da lunedì a in onda, non fai l'inizio della trasmissione con un brano di musica classica ogni sera? Perché tra le varie maniere di suicidarsi che il, come dire, il palinsesto ci mette a disposizione, credo che sceglierò delle maniere più tradizionali. Del resto l'ha già fatto la 7, mandare in onda me. Grazie, traffico. Prego. Allora, salviamo Toscani dalla... Dalla chiamata della zanzara, perché magari si vuole vedere la partita, e rimandiamo il suo preziosissimo intervento sull'universo mondo a domani. Parenzo, stiamo per iniziare, fra poco tutti ci abbandoneranno. Noi siamo qui tutti attravagliati, però noi dobbiamo coprire altri 10 minuti, per cui dobbiamo andare avanti. Dieci minuti, qualche stronzata la troveremo da con dire, chi c'è, poi tra l'altro, cioè, con quei poveri disperati come noi che ci danno una mano a completare la zanzara di questa sera mentre c'è Germania-Italia. Posso dirti che per tutelarmi ho invitato a casa, oltre che Facci, il signor Lenzi, il signor Calderola, anche l'avvocato Trucco. Anche l'avvocato Trucco. Però passami... Se vuoi ti faccio dare l'avvocato Trucco, che sa tutto delle questioni... No, passami Lenzi, il signor Lenzi. Il signor Lenzi vuoi? Va bene, sì, aspetta, signor Lenzi, sì. Scusi, signor Lenzi, la voglio la Madonna, per la sua candidatura. Pronto? Lenzi? Sì. Sì, buonasera. Perché lei vuole fare la follia di candidarsi al CDA della RAI quando sa che non verrà mai nominato? Proprio per quello, perché metto il centro al centro della televisione pubblica. Le sembrano all'altezza... Ma che vuol dire metti il centro? Ma che è sta? Sembri Casini, metto il centro. Quando metto faceva al centro il merito nell'azienda pubblica. È una candidatura folle di uno che fa televisione in un'azienda che dovrebbe occuparsi di televisione. Ah, tra l'altro candidatura di Massimiliano Lenzi, autore televisivo anche di Santoro, da lunedì di nuovo in onda, dopo essere già stato in onda nel passato, candidatura appoggiata da illustri personaggi del mondo giornalistico, per esempio Giuliano Ferrara. Non solo Giuliano Ferrara, da chi sei stato appoggiato pubblicamente? Anche da Giuliano Ferrara e da Mario Sechi, ma è un appoggio di stima più culturale che un appoggio politico. La cosa che io trovo scandalosa è che non siano stati pubblicati tutti i curricula che sono arrivati alla vigilanza. Sì. Nel momento in cui i curricula arrivano devono essere resi pubblici. Sì, sì, no, questo non c'è dubbio, perché Zavoli è inutile che se le faccia mandare. Ma poi, questi se ne fottono dei curricula, tu no, lo sai. No, ma benissimo. Perché le segrete stanze hanno senso oltre Tevere in Vaticano, ma Viale Mazzini dovrebbero essere trasparenti stanze. Ma che trasparenti stanze? Sono state sono state segretissime pure lì, altro che quelle del Vaticano. Al confronto quelle del Vaticano erano una casa di vetro, insomma, no? Erano un open space. Un open space, esatto. Allora, Massimiliano Lenzi, appoggiato da due personaggi che, come Sechi e come Ferrara, in un'area culturale che possiamo definire di centrodestra, al contrario Lenzi tutto è tranne che di destra come formazione culturale, per cui vedete le cose sono trasversali. Però Lenzi, che è un autore televisivo e che vorrebbe, insomma, aspira, in realtà la sua è una provocazione, entrare come dirigente alla RAI, nel CDA della RAI. Consigliere d'amministrazione. Consigliere di amministrazione, bravo. Allora, la prima cosa che faresti, per esempio, qual è? La prima cosa che faresti da esperto di televisione? La prima cosa che farei è valuterei i costi per contatto dei principali programmi su tutte le tre reti, sì, vedendo nel merito i programmi che funzionano e portano introiti alla RAI e quelli che non funzionano e non portano introiti alla RAI. La seconda cosa che farei è mi interrogherei sulla funzione di servizio pubblico su cui in questo paese si dibatte da 40 anni. Anche tu vuoi dibattere ancora altri 40 anni? No, e farei dei programmi che fanno servizio pubblico lasciando il dibattito ai film di Citto Maselli. E per esempio cosa faresti? Chi vedresti per esempio nel giovedì? Ti faccio un esempio, un Corrado Guzzanti deve andare in onda alla RAI. Non c'è dubbio, va in onda su Sky, ti rendi conto o no? Cioè, va in onda su Sky perché con tutto il rispetto. Su Sky che con è tutto una rispetto. TV che fa un'ottima televisione, però una TV privata, tra l'altro a pagamento per abbonamenti. Senti una cosa, giovedì al posto del tuo Santoro con cui hai lavorato tanti anni, nel posto che fu, diciamo così, di Santoro, chi metteresti in questo momento? In questo momento mi fai scegliere su tutto il mercato disponibile italiano? Tutto. Io vedrei bene anche Cruciani Parenzo. Questa qua è una tua butade. È una cortesia per il padrone di casa, però non è neanche una butade. Lascia perdere le persone coinvolte. Allora, la cosa importante è tornare a fare prodotto. Lì non devono pensare a un'imitazione di Santoro, né pescare negli archivi del trovato Rai. Sì. Serve un'idea. Un'idea può essere un Cruciani e Parenzo, può essere inventarsi un programma condotto da una donna, può essere tentare di spostare, che ne so, era stato fatto il nome di Vianello, per esempio. Sì, Vianello potrebbe tranquillamente condurre una. Ma questi sono ossessionati dal fare il 12, il 13, il 15, ossessionati da questo maledetto. Ma lì non è secondo me un problema di ascolti. Il problema di ascolti è se ti fai il paragone con ciò che c'era prima lì. Santore anno zero. Però la televisione è molto cambiata, il web l'ha cambiata e tutto si è trasformato. L'ascolto si è frammentato. Bisogna tornare ad avere un'idea, quindi più che partire da un nome bisognerebbe partire da un'idea di programma. Ed è per questi motivi, per questi argomenti molto logici e molto, come dire, banali, però nella loro senso. Di buon senso, che il signor Lenzi resterà a fare l'autore televisivo, ma felicemente speriamo almeno quella. E non andrà mai al CDA della RAI. Buona partita. 20:52 andiamo a Cettina da Catania. Perché non sta vedendo la partita, Cettina? Oppure la sta vedendo al telefono? Cruciani. No, vabbè, che c'entra? Però magari al televisore davanti, no? No, c'ho davanti la strada. La strada, va bene. Allora? E allora io credo che i nostri signori, e per così dire signori, siano i visitor. In che senso, lei scusi? Sai chi sono i visitor? I visitor, sì, ricordo chi sono. Loro, quelli là mangiano quegli animaletti, i topolini, questi qua ci ingoiano. Si stanno fagocitando. Sono, ma lei dice, terribili. Chi? I politici? Sì, i politici. Ma i politici siamo noi. Siamo noi? E lei? Ma è anche, sì, anche. Io e vado... anche lei allora è un visitor. Sono anche, ma no, ma siamo tutti un po'... Cioè, non è che siano qualcosa siamo di alieni. Non sono degli alieni rispetto agli italiani. Sono gli italiani. No, sono gli italiani, rispecchiano gli italiani. Lei perché dice che ci stanno mangiando? La stanno ci mangiando? Fagocitano, perché non riescono a controllare la loro fame, sono insaziabili. Mi sembrano un po' extraterrestri. I politici. Guardi, cara Cettina, se quel signore nella sua regione prende 41.000 euro di pensione al mese, non è mica colpa sua, è tutto un sistema. E voi siciliani, voi siete stati conniventi a questo, voi. Siamo siamo stati noi a costruirlo. Beh, sì, in parte sì, in parte sì, siete stati anche voi, Cruciani. Perché non siete andati con i forconi sotto casa di quelli che hanno costruito queste norme. Li avete votati, capito? Cruciani, Parenzo, mi lasci parlare. Che no, li avete votati. Li avete votati, li avete vellicati. Sapendo che usavano. È venuto mai in Sicilia, Cruciani? Ma guardi, che io in Sicilia ho anche vissuto in Sicilia, abbia pazienza. E dove ha vissuto lei? A Siracusa, ma che c'entra questo? C'entra, perché qua è tutta la storia. Vicerella ha letto lei. Sì, ma che c'entra? E allora siamo noi siciliani che se vogliamo mangiare, se ci vogliamo cibare, dobbiamo lavorare in nero, altrimenti non mangi, non vivi, non campi, muori. Vabbè, Cettina, a me queste cose di vittimismo non mi piacciono. Come? Queste cose di vittimismo, dice è così oppure non si campa. Non è vittimismo, Cruciani, io lavoro, io devo sto dicendo che se quel signore prende 41.000 euro... Quello è il primo visitor. Quello ma là non è un visitor, è perfettamente compatibile con il sistema Sicilia, perfettamente compatibile. Ma grazie, cara Cettina, l'abbraccio, vado a vedersi la partita però. Otello da Grosseto, poi io vado a Latina. Otello, perché non sta vedendo la partita, lei? Oppure la sta vedendo? No, la guardo, ma mi piace intervenire perché non me l'avete mai data questa opportunità. Vada allora. Volevo dire velocemente, riguardo a Mussi, sicuramente non ci ascolta, però a voi ve lo dico volentieri. Sa perché Mussi non ci vuole pensare alla candidatura di Renzi? Perché? Lo dico io, perché l'unico che può arginare il ciclone Grillo è Renzi. Però se Renzi va su, lui va a casa. Su questo non c'è dubbio. Ha capito? Ecco perché lui non ci voglio neanche pensare. Fa bene a non pensare. Ma non è detto. Se ci pensa gli viene mal di pancia. Non è detto. Grazie a lei, Otello. Non è detto che vada a casa. Giovanni da Varese, vada. Buonasera. Volevo fare un intervento innanzitutto costruendo sul commento di Toscani che proponeva la creatività al potere. E volevo ricordargli che non mi sembra che né Da Vinci, Caravaggio avessero dei ruoli di potere nel Rinascimento, anzi dal potere venivano prezzolati e foraggiati. L'unico esempio che mi ricordo di artista al potere fine anni 90 è stato in Brasile Gilberto Gil, ministro della cultura, ma non mi sembra che abbia fatto delle grandissime cose. Ma guardi che gli artisti al potere al posto di Monti sarebbe un disastro, cioè la bancarotta totale. Assolutamente, un delirio. Abbiamo bisogno dei ragionieri, degli idraulici, abbiamo bisogno di tutti, ognuno deve fare il suo lavoro. Assolutamente, Giovanni, dobbiamo concludere la trasmissione. Daniele da Grosseto, per concludere, 30 secondi, forse meno. Buonasera, Dani. Vada. Volevo dire, io darei, da ex elettore del centrodestra, darei fiducia ai grillini e li farei governare. E poi valutiamo alla fine se sono andati bene o ma no. Governare ma cosa? Governare cosa? Fino alla fine. Governare cosa? L'Italia? Sì, assolutamente. Governare l'Italia. Bah. Grazie, a domani 18:30. Ciao, amore. Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.